Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire, che è successo? Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti sei lontano, perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Comunque Cruciani, la notizia del mese è che la mamma di Parenzo ascolta la zanzara. Amico mio, ma questa donna, ma non c'ha proprio un cazzo da fare nella vita. Ma una trasmissione di 3 ore con insulti e improperi al figlio, le peggio cose, e lei ascolta la zanzara. Ma potrebbe leggere un bel libro, far da mangiare al marito, leggere le favole della buonanotte ai nipotini invece di ascoltare la zanzara. Beh, sarebbe subito da intervistare per capire perché questa signora ascolta Radio Cloaca. Vabbè, c'è gente strana al mondo, eh. Oh, c'è gente strana al mondo. Ma in realtà è da elogiare e basta. È da che ride. No, mi ha appena scritto. In realtà la mamma che ascolta la radio lo fa con un intento anche psicologico, per capire quanti stronzi. Persone. No, lei alle volte diceva che è incredibile questa gente, incredibile. Ma sì, certo, è un'indagine sociologica. Quindi un'indagine sociologica. Povero imbecille. Ma perché imbecille? Ha fatto un messaggio fantastico, ha lasciato. Questo povero imbecille miserabile. Primo, legge i libri ai nipoti, ne ha 3 e legge i libri ai nipoti. Legge e capisce quanto l'animo umano si sia inabissato in queste fogne e ne trae la ragione, la conseguenza per dire che mondo, che mondo, che mondo. Ragazzi, il mondo ormai sta cambiando. Un bambino è caduto in un fossato dove c'era un gorilla, che è un esemplare, diciamo, raro di gorilla, e naturalmente, naturale conseguenza è che questo animale raro è stato ucciso per salvare il piccolo. Era inevitabile, cioè, e dicono esemplare sacrificato per la loro disattenzione. I genitori rischiano l'incriminazione. Ora, va benissimo tutto, per carità, la disattenzione, sicuramente saranno colpevoli, ma incriminazione per cosa? Incriminazione? Può succedere che uno, no, perda il controllo della situazione, quello è caduto dentro la fossa, il gorilla poteva ammazzare sto bambino ed è stato ammazzato. Giustamente la madre dice, incidenti che capitano, non so dove è successo, credo in Australia, in America, una cosa di questo tipo. In Australia. Ma anche le persone normali, anche le persone amanti degli animali, gli etologi, questi qua, dicono in maniera chiara che la vita umana, e con questo intendono la vita umana, non la vita degli animali, ha la priorità assoluta, ha l'assoluta priorità. Chiaro? Oh, ma che bravi gli islamici, eh? Che bravi gli islamici. Il presidente turco Erdogan ha detto che il vero musulmano non deve usare i contraccettivi, non deve usare i preservativi, figli, fare figli, fare figli, fare figli. Che bella la Turchia moderata, no, l'Islam moderato. Diglielo ai governi. Dai. Che stringe accordi con la Turchia, diglielo a questi. Vabbè, governi, ma quello, sai, tra cui anche il nostro, diglielo, diglielo. Salvini scatenato dopo i morti in mare, soprattutto bambini degli ultimi giorni, 300 morti. No, ma 20. Non farlo sentire perché è orribile. Ma no, dopo avremo pure ospite, figuriamoci. No, no, non farlo, fai un non dire cazzate, stampa, ma non dire cazzate, no, non dai, su. È orribile. Ma perché è orribile cosa? Perché è orribile? Non ho capito, perché non si deve. Perché dopo la strage di bambini che c'è stata, che succede? Dopo la strage strage di bambini. E vabbè, dopo l'uccido la morte dei bambini. No, no, la strage è un'altra cosa. La strage è un'altra cosa, è compiuta da qualcuno. In questo caso sono morti perché qualcuno li mette su quei barconi. Perché qualcuno li mette su quei barconi. Gli adulti. Ma che i bambini? Perché bambini. Quando uno scappa da una ma guerra, quale libertà? Ma non c'entra nulla, dai, su. Cerca di vivere. Sì, anche vabbè. Di sopravvivere. Vabbè, allora? Allora? Perché di fronte a quella strage si dice che siamo di fronte a un'invasione anziché per un giorno stare zitti. Muti, ma non bisogna mai stare zitti, mai, con mai. Il dio Po e quelli che hanno le corna in testa e quegli altri. Vabbè, fammi sentire Salvini invece di attaccare il pippone sulla Lega, dai. Qua c'è una sostituzione etnica in corso, c'è qualcuno che pensa di importare migliaia di nuovi schiavi da mettere sul mercato delle cooperative a 3 euro all'ora, cancellando gli italiani che popolerebbero questo paese e vorrebbero continuare a popolare. Senta, quindi... un tentativo di genocidio. Sì, nel giorno in cui sono morti, pensa a te. Questa è un'immigrazione organizzata, finanziata, è un tentativo di genocidio, perché i profughi veri che vanno aiutati e salvati sono neanche il 10% di quelli che stiamo mantenendo in albergo in Italia. Però al di là di Salvini è così semplice dire una cosa, cioè noi ci possiamo permettere di prendere solamente i profughi. Ora, quanti sono questi profughi? Potranno essere non il 10% come dice Salvini, ma mettiamo pure che siano il 20%. Gli altri sono migranti economici. Cioè vengono qui, perché probabilmente vivono meglio rispetto al loro paese. Questi qua, ci possiamo permettere di accoglierli? Sì o no? Se sì, allora porte aperte. Se no, tutti quelli via. E restano quelli che sono veramente profughi, cioè che veramente scappano da guerra, eccetera, eccetera. Vabbè, ragazzi, abbiamo detto tante volte queste cose che veramente ci siamo rotti i coglioni anche, no? Berlusconi dice che Renzi è padrone dell'Italia, vabbè, dai. Un solo leader, Renzi, che è padrone del partito, padrone della Camera, padrone dell'Italia. E io una situazione del genere non so chiamarla differentemente che da regime. Però io voglio solamente dire una cosa a Berlusconi, al di là della campagna qui, della Durso, della campagna elettorale, ma Berlusconi non è lo stesso che voleva in pratica il più del 50% per un solo partito, ti ricordi? Una delle battaglie storiche di Berlusconi è stata sempre... datemi il 50 più 1 così potrò fare le riforme. Sì, così potrò fare tutto, no? Cioè, ma qual è il, qual è la differenza? Cioè, quello c'ha manco il... una roba incredibile, dai, su. Pensione per le mamme. Questa non l'ho capita bene, siccome siamo in campagna elettorale fioccano gli slogan, no? Berlusconi propone la pensione per le mamme. Che cazzo vuol dire la pensione per le mamme? Comunque, sentiamo. Una pensione per quelle persone che lavorano più di tutti, che lavorano anche alla sera, che lavorano il sabato, la domenica, che lavorano anche durante le ferie e non sono pagate. Pensione alle nostre mamme. Bah, in campagna elettorale veramente se ne sentono di tutti i colori, come per esempio lo scontro tra La Russa, ve lo ricordate La Russa, sì? Come no? E Maria Teresa Meli, sentite, spettacolare. Non ho capito, chi se ne importa delle due persone che stanno a Milano, che stanno facendo campagna elettorale? Si chiama Canali Umanitari, Meli, perché la tu non sei candidata, ricordati, no, appunto, quindi parlo. Sei giornalista. Esatto, quindi ricordati, parlo. Sei svenduta alla politica, una finta giornalista, no, ma svenduta alla politica, zitta. Scusi, è come per dire, scusi, lei è un ex fascista che con me non si deve permettere tu, di parlare. Ma non sei giornalista? Svenduta ex fascista, non ti sembra parlare con me. Perché? Perché dobbiamo sì, posso dirvi però? È bello il trucco. Allora, scusate. Quindi lei mi ha offeso, io poi la querelo, perché lei ha rotto le scatole col fatto che lei fa il parlamentare, può pensare sì. di dire e tutto quello che vuole. Che lei non sta Stop. Facendo la giornalista. Sto facendo sta la giornalista, sto permettendo alle persone di sta parlare, se non lo fate parlare. Di sinistra, sta accusando gli altri, lei deve fare la giornalista. Io sto dicendo, non, non fate campagna elettorale. Facendo fate finta di essere imparziale, questo vabbè, sto lei dicendo. Guardi, parli, se poi vuoi parli, mi quereli, parli, lei sai quindi, che roba. Lei proprio è abituato a olio di ricino e manganello, continui a parlare lei. Oh, brava, vedi che lo sai, olio di ricino. Io non ti querelo, stai tranquilla. Anche perché non potresti su questo. Non ti querelo, cioè io ho sempre dato manganellate e olio di ricino, anche a te. Manganellate no? Sì, olio di ricino magari no. Allora ragazzi, tra le tante proposte che sono state fatte dai candidati sindaci in questi giorni, ce n'è una abbastanza strana, che è quella del candidato dei 5 Stelle Raggi, che propone, adesso sentiremo la voce di Di Maio, che è uno degli, come sapete, degli elementi di spicco del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Camera, che vuole gli assessori a tempo determinato. Posso dire che è una stronzata pazzesca, ma una stronzata infinita. Cioè, a Roma un assessore a tempo determinato, cioè vogliono fare la rotazione tra gli assessori. Già a Roma è un caos infinito, c'è la monnezza per strada. In questi giorni la cosa più incredibile è lo sciopero degli addetti alla pulizia delle strade. Pazzesco. Cioè lì dovrebbe essere impedito lo sciopero di quelli che fanno la raccolta dei rifiuti. Impedito, ma impedito con la forza. Invece no, fanno lo sciopero gli addetti ai rifiuti a Roma. Una cosa incredibile. Cioè fanno lo sciopero lasciando la città in mezzo alla merda. E questo è un discorso. In questo caos cos'è che si propone? Gli assessori a tempo. Ma un assessore a Roma... in teoria dovrebbe essere non uno che si mangia pure le sedie dell'assessorato, dovrebbe essere purtroppo un disgraziato che 24 ore su 24 si impegna per la città. E che cosa vuole fare la Raggi? A rotazione. Ma di che parliamo? L'assessore a rotazione, ragazzi. Noi passeremo da 12 assessorati a 9 assessorati e introdurremo una novità: assessorati a tempo. Cioè i politici che governano Roma devono essere degli assessori a tempo determinato. Io ti do un progetto, lo realizzi, una volta che l'hai realizzato basta, non campi di rendita in quella carica. Ma non c'entra niente campare di rendita, significa avere dei progetti. Cioè c'è una giunta in cui ci sono gli assessori che sono quelli che si occupano del traffico, e i problemi del traffico di Roma non è che si risolvono in 4 mesi, no, in 5... Ma poi pensa al casino che succederà. Cioè, chi decide poi quando il progetto adesso ci diranno fate campagna contro i 5 Stelle? No, normale. Non ce ne frega nulla. Ovunque, anche in Germania è così. Ministri a tempo. Ma ovvio. Ministri a tempo, che vuol dire? Come no? Una volta che hai ottenuto una cosa, vai a casa. La Merkel si è dimessa un sacco di volte, normale. Ma non è no? vero, ma non ma è vero. Sempre, sempre lei, ma ruota, si dimette e poi ritorna. È evidente. Crucià. Ma il traffico durante la zanzara dovrebbe diventare un reato penalmente perseguibile. La zanzara. Allora ragazzi, prima di aprire le linee, altre due cose. Le gabbie. Ma no, che gabbie. La prima cosa è questa, cerchiamo di fare un collegamento migliore con Parenzo, oggi leggermente meglio da Siena, ma insomma non andiamo benissimo. Sapete questa storia drammatica di questa ragazza bruciata viva dal suo fidanzato, ex fidanzato, che ha confessato, pazzesco. Non volevo che finisse. Lì dobbiamo fare i soliti discorsi sul senso del possesso, sulla gelosia che distrugge i rapporti in generale, anche quando è a limiti molto bassi, anche quando non si arriva a queste cose. Ma ancora una volta, hai mai visto una donna che uccide un uomo? Sì, per questo? No, adesso no. Ho capito dove volevo arrivare. Allora, no, io, te lo chiedo. Ma no, ma no, è raro, è molto una raro. Una donna che per possesso uccide un uomo. Sì, ma è molto raro. Però no, devo dirti una cosa. Ecco il femminicidio. No, non voglio sentire parlare di questa cosa qua. È semplicemente un assassinio. Cioè questo signore qui va messo in galera per tutto il tempo che sarà necessario, ergastolo, speriamo, quello che è, ma non è che deve prendere più anni perché ha ucciso una donna. Questo aggravante, certo. Ma quale aggravante? Questo signore qui deve finire in galera per tutta la vita. Come? Non c'è dubbio. Ma come al contrario se una donna, caso più raro certamente, uccidesse un uomo. Che punto e esiste. Basta. No, ma può anche esistere, esistono dei casi molto rari di persone che hanno ucciso per gelosia, delle donne che hanno ucciso degli uomini, sicuramente esistono. Ma insomma, che differenza c'è? Non c'è nessuna differenza. Il fatto che tu non te lo ricorda vuol dire che è molto più raro. Ma sì, ma possiamo fare mille discorsi sugli ormoni, sulle cose, su quello che vuoi, sull'uomo che uccide la donna, invece al contrario no, ma non cambia il termine discorso. Si tratta di pure assassinio e si parla ancora una volta di una cosa ridicola che è il femminicidio, ridicola. Ma vogliamo parlare anche di circoncisione, Parenzo? Vogliamo parlare della circoncisione casalinga, cioè fatta in casa? E chi è che la fa con in un casa, bambino scusa? Di un mese morto a Torino? Da una famiglia ganese? Da una famiglia ganese? È sbagliato farlo in casa. Intervento per motivi religiosi? Ma intervento per motivi religiosi? Ma non è che per questo si abolisce la circoncisione? Io devo dire la verità, la trovo anche una pratica abbastanza barbara. Devo dirti. Perché sei matto, non sai niente. No, ma è anche abbastanza barbara, cioè come pratica in sé. L'80% dei maschi americani è circonciso, l'80%, vai sì. a vederti i dati. Sì. L'Organizzazione Mondiale della Sanità la ritiene una pratica necessaria e sarebbe fondamentale per sconfiggere in Africa le malattie a trasmissione sessuale. Ho grandi dubbi. Vabbè, andiamo in provincia di Padova. Sei l'OMS tu? No, tu sei Donato da Varese. Ma è sei tu cosa. Donato, che c'entra? Sei, no, tu l'OMS sei molto... è una cosa, le minchiate sono un'altra. L'OMS è l'Organizzazione Provincia della di Padova, Stefano, vai. Pronto? Dimmi, dimmi Stefano, dimmi. Sì, sono Stefano di Padova, buonasera. Sì, lo sappiamo, l'ho già detto, dai. Ecco, sì, scusi. Niente, volevo chiedere al signor Parenzo, se ecco. mi sente, come mai non era alla finale, alla serata finale del premio Campiello con il dottor Ernesto Galli della Lodi. Vabbè, a noi però di questa cosa qui non ce ne frega assolutamente nulla. Siccome si bea sempre ovviamente la differenza sua, ovviamente Ernesto Galli della Loggia, sì, ovviamente sì, certo, ovviamente ero stato ovviamente invitato, cosa che lei non è, ovviamente non c'era, per ovvie ragioni che si capiscono, e ero ovviamente stato invitato, siccome dovevo lavorare non sono Vabbè, ragazzi, non ce ne frega niente. Stefano, di cosa vuoi parlare? Ecco, volevo parlare di quel bambino sì. che è caduto dentro la vasca del gorilla, no? Sì, sì. Negli Stati Uniti, ecco. Vegano e gorilla, vabbè, eccetera. Secondo Stefano, me hanno sbagliato. Dai, forza, dimmi. Ecco, le guardie dello zoo hanno sbagliato. Non dovevano sparare al gorilla. A chi? Dovevano sparare alla mamma. Ecco il cretino, ecco. È arrivato il cretino, dai. Ma era evidente sin dall'inizio della È arrivato il cretino. Io ecco, avevo qualche piccola speranza, invece no, è crollata subito. No, l'ho fatto apposta. È arrivato il cretino, ecco. C'è da sparare alla mamma, secondo te? Sì, perché non si può davanti a una gabbia di un gorilla di 200 kg. Sì. Finché si chiacchiera con le amiche, il bambino va dentro la vasca e viene preso dal gorilla. Il guardiano, sì. prima di fare quella, doveva sparare alla mamma. Ecco il cretino. E lei questa pensata quanto ci ha messo a farla? Hai fatto la colonoscopia? Quanto c'è? No, non l'ho fatta. L'hai lavorata? Per quanto tempo? Falla la colonoscopia, falla. Sì, la farò. Per quanto tempo ci hai messo a elaborare questa minchiata, Stefano? 3 secondi. Tre secondi, ecco, bene. Marco da Milano, vai, si vede. Marco da Milano, ottimo, bravo Marco da Milano. Cruciani. Dimmi. Ciao, come va? Bene, dimmi. Bene, Parenzo, tutto bene. No, io volevo parlare del gorilla dopo. Volevo parlare prima del fatto successo a Roma, la povera ragazza di 22 anni. Sì. Che è stata bruciata viva. Sì, lo sappiamo, l'ho già detto prima. Bruciata da viva. Da questo islamico. No, non, no, è, non è l'islamico, è un italiano. Un immigrato. No, è italiano, lo so che fa ironia su questo. Ah, italiano? È cattolico? È italiano, sì, cattolico, bravo. Non lo so. Ma bisogna dirlo a Salvini, eh. Sì, ma adesso glielo diremo, più tardi glielo diremo, certo. Allora? Va bene, niente, volevo informarlo che era un italiano che aveva bruciato. Abbiamo capito la tua sottile ironia, andiamo avanti. Per quanto riguarda il gorilla, sì. diciamo quel bambino che è caduto dentro. Il gorilla diventa protagonista. Allora, hanno fatto, cioè, dovevano sparare subito, hanno fatto bene. C'è quello lì che. Ragazzi, ma non c'è nemmeno da discutere. Poi si può accusare la madre di essere imprudente, eccetera. Vabbè, d'accordo, abbiamo ucciso un gorilla, una specie rara di gorilla. Succede. No, di fronte al bambino, giustamente hanno ucciso il gorilla. Ma di che parliamo, ragazzi? Archiviamo questa cosa. Chissà che dirà la signora Celentano di fronte a questo. Fammi finire, dimmi. Però io però metterei anche un guardiano appena vedo qualcuno che tocca un bambino, un pedofilo, qualcuno che lo prende, che lo ruba, subito pum spararli subito come se Vabbè, è anche abbastanza difficile beccare un pedofilo al volo, so, diciamo, però no? Sarebbe bello quando lo rapina, lo prende. Va bene, volo, Vincenzo per... Vincenzo da Napoli, vai. Ciao, buongiorno a tutti. Dimmi. A proposito del femminicidio, che concordo con te sia assolutamente una cosa irrealistica, è semplicemente la violenza del più forte sul più debole. Ma certo, rispondendo a Parenzo, diceva a proposito le donne non ammazzano gli uomini, ma quante volte le donne hanno ammazzato i bambini, figli inclusi? Sì, perché sono più a contatto con i figli, vabbè, no? Perché sono più a contatto. Ma sì, ma ragazzi, ma come la parola, la parola del più forte sul più debole. La parola femminicidio andrebbe eliminata. Questa è la realtà. La parola femminicidio andrebbe eliminata, che non c'entra nulla. Non è che c'è un'ondata provocata chissà da che cosa. C'è semplicemente quello che è sempre successo. L'uomo per mille ragioni che uccide. Va bene, d'accordo, ma appunto, vedi che hai individuato la tipologia, bravo. Sì, ma non è che c'è un aggravante da dare, cioè non è che se tu bruci viva una devi prendere l'ergastolo più 30 anni, sono le modalità che fanno la differenza, no? Omicidio con ferocia, eccetera, eccetera. Dai, su. Nicola da Milano, Nicola, vai. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Dimmi. Senti, io non ho capito una cosa, ma come mai, per quanto riguarda il rientro dell'oro in Italia, no? Praticamente, cioè, volo di Stato, ministri che attendono all'aeroporto. Ma succede, perché qual è il problema? No, cioè, voglio dire, nessuno parla invece di questi due poveracci che sono stati uccisi, cioè, non di ne chi? Parla nessuno. Di chi? Di questi due poveracci che sono stati uccisi. Ma è anni che si parla dei pescatori uccisi, quelli là, cioè, delle responsabilità, chi è stato, chi non è stato, che vuol dire? Vabbè, a dopo, dai. Se Confindustria paga due come voi, si capisce perché il paese va a puttane. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Personalissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it. Vi presenta La Zanzara. E fatelo un cazzo di shampoo, che sembra che ti sei asciugata la testa con la carta della pizza per quanto sonti. E poi fate pure una doccia. Calcola, se quando entri in doccia te e verughe si mettono nei ciabatte, si mettono, non ti dico altro, ti dico solo questo. Ma ragazzi, oggi sono pulitissimo, Oggi sono pulitissimo. Allora, Super Sgarbi ieri al Costanzo Show, caro Parenzo, Super Sgarbi, Super Sgarbi. Visto. Nella prima parte della trasmissione praticamente non si sentiva il meglio di Sgarbi, perché è stato, non dico bippato, ma addirittura silenziato nelle parti più piccanti. Ma è giusto di che cosa? Se giusto, tu ho capito, ma non chiami Sgarbi al Costanzo Show se devi bippare o tagliare le parti. Ma basta mettere un bip, una cosa. Ma qual è giusto il problema? La parola scopate? Cioè, la parola scopare in prima serata su Rete 4 non si può utilizzare. Ma quello magari può turbare il pubblico, specie femminile, anziano, che è davanti alla televisione a quell'ora. No, ma ragazzi, è un'ipocrisia assoluta. Dai, mi disgarbi, basta, no? Cioè, è vero che non dovremmo dirlo noi, però. Belen Rodriguez ha scopato meno di Marina Ripa di Meana. Cosa probabile, anche perché Marina di Meana ha la sua età. Ancora Belen ha un po' di anni davanti, Ha consumato una parte del suo tempo in meravigliosi gossip per quello che ha fatto la Ripa di Meana. La differenza è che invece Belen ha fatto molto di meno, ha scoperto molto di meno, ha avuto molti meno uomini, è stata nelle mani di... Eppure... Io ho avuto 10 uomini. Ecco, lei 150. Belen è una santa in confronto a me, vero? Sei una poppante. Io 10. Una santa. C'è una brava ragazza che voleva fare la suora e ha trovato Corona che l'ha incoronata rovinandole la vita. Se tu stai la vita, un mese rovinando nel senso dell'immagine. L'ha detto. Era lui e non io. Cercate che me lo sei geloso. Dovevi darla a me, non a lui. Ha detto questo. Dice Sgarbi, dovevi darla a me, non a Corona. Poi con Marina Ripa di Meana ancora non è più interessante perché ha smesso di scopare. Perché è smesso di accadere qualcosa per la Ripa di Meana? Perché ha smesso di scopare. Dai, lì, dai. Lì. Ma torni, Poi se la piglia con Costanzo dicendo che Costanzo non scopa più e dunque non è oggetto di gossip. Il povero, no, il povero Berlusconi, il reato vero è circonvenzione di attempato, si è messo intorno a una varietà di ragazze fingendo di farsi... Era lui la vittima! Era lui la vittima! Però perché erano curiosi? Per le scoperte potenziali, anche lesbiche! No. Altrimenti chi se ne frega? Perché Costanzo non è materia di gossip? Perché non scopa più! No, ecco, vi ho fatto sentire alcuni pezzi perché quando si pronuncia la parola scopare, scopa, eccetera, la voce non si sente. Perché è stata tolta? Cioè, è davvero così incredibile mettere in prima serata? Perché dopo le 11 riprendeva, si poteva dire, cioè le parole non erano oscurate. Beh, diciamo. Sì, ma questo è un classico. Ma ragazzi, ma è una parola a scopare, non è che ha detto delle cose volgari, ha utilizzato. Ma che cos'è? Non è volgare, è il morto. Ma dai, ma la parola a scopare non. Ma che c'è di male? Che c'è di male? Ma che cosa? Alle 10 di sera in televisione non si può dire scopare, ma dai. Ma magari su. Davanti c'erano dei bambini. Ma si vedono delle cose orribili ovunque. Ma i bambini sono molto più. Cioè, sono molto più. Capito, si possono colpire in maniera molto più forte con altre cose. Ma la mia figlia, la zanzara, non gliela faccio sentire. Ma cosa, ma cosa c'entra adesso la zanzara? Un altro discorso, dai. Anche su. Quando sono davanti alla televisione con mia figlia, cerco di stare. Mamma insomma, mia, come siete bigotti! Bene. Tanto vanno a scuola e poi fanno quello che vogliono, diranno le peggio cose. Siete di un bigottismo. Avete la paura, una paura fottuta avete di queste ma cose. Ma senti tua figlia che dice una parolaccia. Ma non è che la sente e la dice, questa è una cosa ridicola. Io chiedo a te, al genitore. Vabbè, io dico, guarda, non si deve dire questa cosa fino a... Ecco, vabbè, dici, ma d'accordo. Dici, oppure dici, brava, cazzo, bene, giusto, cazzo, bene, bene, ma bene. No, ma non è quello, ma non è che sentendo Sgarbi pronunciare la parola scopare dice, succede papà, chissà che cosa. Che cosa dai. Sta dicendo, Vittorio? Tu gli dici, ma sai, è ha un pronunciato modo... la parola scopare, che significa una cosa che imparerai quando sei più grande, che punto e basta. È un modo brutto per dire un po', no, per dire... Invece quando vedono alle 8:30 di sera Striscia Notizia con le veline, invece va meglio. E no, dai, su. Ma non fai moralista. Da, no, confine, figurati, dai, io moralista. Confine, io moralista, sì. Confine sono le convenzioni. C'è un confine, c'è un confine. Se lei stesse, per esempio, con un grande omosessuale, sarebbe un'avventura meravigliosa. Far diventare perverso un omosessuale. Cioè, farlo diventare transessuale. Che è la vera perversione. Sì. Rapporto Vladimir Belen meraviglioso. Sgarbi sogna un rapporto tra Vladimir Luxuria e Belen Rodriguez. Costanzo ha sposato un uomo e un vecchio frocio. Anche Costanzo è omosessuale, non si è mai sposato. No, è un vecchio omosessuale. Ha sposato la Di Filippi, che è un uomo. Visibilmente è un uomo. È un matrimonio con un uomo. Ma io sono un vecchio frocio. Vecchio frocio. Questa è la sostanza. E poi il solito, il matrimonio è un cesso. Ma capito? Perché il matrimonio è un cesso, è una tragedia, è la violenza a tutti. Muoio, mariti che uccidono le mogli, appunto, mogli che uccidono i bambini. Perché più. Dobbiamo lodare il matrimonio? Va cancellato perché è cristiano, proprio per quello. Non va conservata questa istituzione di merda, da cui escono soltanto violenze, omicidi, assassini. Fuori del matrimonio. Io non devo uccidere nessuno, io non sono padre e ho tre figli, non devo uccidere nessuno. È sempre il numero uno, professore, non c'è niente da fare. Il matrimonio è un cesso che va cancellato. È sempre il numero uno. Libertà, libertà. Oh, c'era anche il prof là, c'era anche Taormina, ragazzi, c'era anche Tao. Sì, ma ormai sui matrimoni omosessuali. No, tutto bello impettito, era severissimo. Debolissimo, devo dire la verità. Sui matrimoni omosessuali è debolissimo, Taormina, debolissimo. I matrimoni eterosessuali hanno combinato più casini che altro, no? Perché mi pare che la vita ci dimostri che si sono divorzi a non finire o altro. Non capisco per quale ragione si sia dovuto cercare anche nelle coppie omosessuali l'istituzionalizzazione del rapporto, ma così se come lo vogliono. Se fosse. No, no, un momento, è un momento. Problema suo. No, un momento, non è un problema, non è un problema. Sto dicendo. Secondo me le persone così contro, così contro i gay e così omofobe, secondo me è perché sono un po' gay e lo rinnegano. Mi stai dicendo che la povera Taormina in realtà è un po' gay? Proviamo. Io sto qua. Perché altrimenti non si spiega. Proviamo, l'avvocato diceva Belen Rodriguez, proviamo se sono gay. Proviamo a vedere se sono gay. Vabbè ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Roma. Patrizio, vai Patrizio. Vai Patrizio. Vorrei rettificare un'affermazione sua. Lei ha visto rappresentato la questione del bambino che è caduto nel fossato. Sì, in altri termini, lì c'era un essere inerme, un bambino, poverino, che poteva essere ucciso o comunque malconciato da un altro essere pericoloso. Ed è assolutamente lecito che sia stato ucciso. Ma lei ha sostenuto la priorità dell'essere umano. Beh, no, mi sembra evidente. Questo è un concetto generale, lei che lo misrappresenta. Perché se ci fosse stato uno zingaro con un coltello, sarebbe stato lecito fare lo stesso. È quello che in America viene fatto contro ogni aggressione. Non ho capito, scusa, che c'entra lo zingaro? No, ma il punto è molto semplice. Ragazzi, non bisogna fare troppa filosofia. Cade un bambino dentro una fossa dove c'è un gorilla. Se c'era un essere umano con un coltello che lo voleva sgozzare, avrebbero dovuto uccidere. Che voleva sgozzare chi? Il bambino, chi è il caduto? Ma quello, d'accordo, che c'entra quello? Scusa, no, allora dico che è un principio generale, la difesa dell'essere più debole. È un principio che va applicato ma sì, ma non in quanto animale, certo, ma non in quanto è questo in suo, è questo quello che lei tendenziosamente cerca di far passare. Ma lei è completamente fuori di testa. È lecito ammazzare l'animale. No, io ho detto è lecito ammazzare l'animale nel caso in cui c'è una persona in pericolo. Beh, ma quello è evidente che c'è la priorità dell'essere umano. Del debole. Non sappiamo. La madre lì è veramente responsabile anche con. Ma lo sappiamo, però è inutile. Ma adesso lei non ha mai fatto un errore da padre? Non ha mai fatto un errore da padre? Io lei? Non sono padre, grazie. E vabbè, comunque, Parenzo, hai mai fatto errori tu da padre? Sì, io fai tantissimi. Allora. Mi ricordo che una volta. Sì, questo è un errore. Ero al mare e mi era sfuggita per qualche minuto, forse per 20 minuti, mia figlia. Mi ricordo il panico, che ero lì in spiaggia. Sì, ma non vi scordate che quel signore che ha dimenticato il figlio e l'ha arrostito dentro la macchina è stato condannato penalmente. Ma questo è un altro discorso, io parlavo dell'animale. Cioè allora, non io non so che quali saranno le responsabilità di questa donna e della madre. Io non sto giustificando nulla. Sto semplicemente dicendo che di fronte a un errore umano, cioè la caduta di un bambino dentro una fossa dove c'è una specie rara di gorilla, e di fronte al pericolo incombente, lei, Cruciani, non vuol capire che cosa le sto dicendo. Lei sta usando questa cosa per far passare un suo concetto. Ma qual è? Che l'animale può essere inferiore. Ma e che non è quello, ma a parte che non è vero. Si può uccidere senza colpe. No, ma dipende dalle situazioni. Dipende chi vuole far male a un altro. Dipende dalle situazioni. Se ti metti ad ammazzare l'animale così a cazzo di cane, sei punito dalla legge. Bravo, finalmente la cosa giusta. Ma è una vita che lo sostengo. Però non vi scordate che voi siete le persone che hanno portato con gran fanfara quell'individuo che uccide l'elefante. Che cazzo gli ha fatto l'elefante? Perché lo deve uccidere? Quello va a caccia. La caccia è una pratica su cui si può discutere. E io invece sono a favore della caccia. Lei, con la sua misrappresentazione. Misrappresentazione, vale a dire da un'altra parte. Pamela da Milano, vai, Pamela. Pronto? Sì, dimmi, Pamela, dimmi. Ciao, piacere. Allora, io entro in un contesto che non è proprio questo di cui stavate parlando. Io sono una sexy star. Sei una sexy star? Che vuol dire? Sei una sexy star? Sexy star, difatti, in molti la confondono con la pornostar. Aspetta, come ti chiami di cognome? Scusami, Pamela. Sono Pamela Neri io. Pamela Neri, un attimo che c'è la pubblicità, poi torniamo. Fermali, Pamela Neri, sexy star. Cosa vuole da noi? Sentiremo. Cruciani è un malato che si deve far curare, perché per lui va tutto in vasto. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta La Zanzara. Argentina. 2800 metri. Ande. Carne di lama. E podcast della Zanzara. Siamo veramente al top, ragazzi. Allora, siamo in collegamento con Pamela Neri. se non sbaglio, però sì, Pamela, tu sì, hai detto sei una sexy star. Io ho fatto sì, un giretto. Io, scusami, l'ho verificato. Ricerca immediata. Una porno star, no, sexy star. No, quale sexy star, amica mia? Assolutamente. Ma come assolutamente? Allora, su Google mettono porno star. Ma no, per, come vuoi che leggo? Vuoi che leggo qualche no, signora, mi scusi. Invece... Scusa? Scusa. No, signora, sia gentile. Io nella pubblicità mi sono addentrato e ho scritto Pamela. Sì, certo. Ecco, e ho trovato delle foto, cara sì, amica mia, e se quella lì non è una pornostar, chi è? Sicuramente non è un'orfanina. Io non ho mai fatto film porno in vita mia, mai. Leggo qua video porno, porno gratis di Pamela Neri, la prima volta per i suoi fan. Porno gratis, lo faccio... Ma, sì, ma no, sono video da sola, sono video che io faccio da sola, quindi non sono una pornostar, non faccio film con attori. Vabbè, ma ho capito, ma farei da sola, ma vabbè, d'accordo, allora... Si chiama... porno star, una che fa un video da sola. Vabbè, d'accordo, saranno un altro tipo di film, ma sempre quello è. Ma perché c'hai chiaro? Sono dei video. Ma io sono molto io sono molto contento di sentirti, per carità, che qui c'è spazio per tutti, da politici a porno star a porno sexy star, come dici tu. Io volevo spiegare solo una cosa, fare una domanda, perché ancora nel 2016. Come mai hai chiamato? Come mai hai chiamato questa augusta trasmissione? Ecco, dimmi. Allora, io l'ho chiamata perché qui si può parlare fuori dai denti e si può dire ciò che si pensa, allora... e avere anche un riscontro, no? Allora, io vediamo, mi chiedo, io sono stata marchiata a fuoco perché ho fatto un programma 20 anni fa, 15 anni fa. Come si chiamava? Tipo col Vizi Privati Pubbliche Visioni, molto conosciuto all'epoca. Vizi Privati? Pubbliche Visioni, con Maurizio Paradiso, con la mitica Maurizio Paradiso. Vabbè, allora... Me lo ricordo, me lo ricordo. Ecco, quindi molto conosciuto. Dopodiché ho fatto gli 899 che tuttora vanno in onda, dirette sexy, spot pubblicitari, 899. Va bene, questa è la tua, sta la tua via, la tua vita, dunque? Sì, la mia vita, dunque. Allora, io non ho, ripeto, non ho fatto 50 film porno come una signorina che appariva in media e faceva paperissima sprint alle 8 e mezza. Però scusa, scusami, cara Pamela, adesso va bene tutto. Non capisco qual è la discussione. Tu ci hai chiamato dicendo ci sono persone che hanno fatto le pornostar vere e proprie e poi stanno in televisione. Invece tu... E sono paperissima. Ti stai lamentando... A chi posso fare una televendita, una televendita anche di un tappeto, perché io sono ancora conosciuta come quella che mostrava le tette e il culo. Cioè, però scusami Pamela, io non lo so, cara signora mia, io non so il motivo per cui c'è questo ostracismo che tu dici nei tuoi confronti, da parte della o bigottismo eccetera. Certo. Quello dipende un po' da un sacco di motivi, dipende dalle proprie capacità, dipende dal... Se io scrivo, scusi, rimane un fatto inequivocabile, che se io scrivo il suo nome su Google non salta fuori un articolo sul sistema elettorale, né salta fuori un articolo sulle borse di Wall Street o di Francoforte. Saltano fuori teste e culi, amica mia. Ma che come specchietto per le allodole, mettono il mio nome e cognome, poi clicchino, va bene, sono io. Pamela Neri, cara amica mia Pamela Neri, qual è il punto fondamentale? Perché ti rode il cosiddetto culo? Questo è il punto. Mi rode il culo perché comunque io sono lo specchietto per le allodole. Ma non sei nessuno, ma io non so nemmeno della tua esistenza, scusami, che è lo specchietto per le allodole. Lo sai, molti italiani lo sanno. Ma non è vero, non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno della mia esistenza. Ma detto con tutto il rispetto, lo dico con grande rispetto, ma dai, francamente non lo sa nessuno. Tutte le sere, però. Allora, amica mia, io Pamela Neri non la conosco. Che ti devo dire? Pure il mondo. Ma per carità, ma io sono contento. Ma sono contento di conoscerti. Detto venga questo, presente che il signor Cruciani venga presente che in materia. Conosciute, no? Aspetta, no, ma assolutamente, però se tu mi dici allora io sono una conosciuta qui, sono discriminata, qua, dov'è questa discriminazione? Sono discriminata, certo. Ma perché cosa? Perché cosa? Perché cosa? Ma perché, ripeto, vent'anni fa, si ricordano? Parliamo di Rai, Mediaset e anche... Vabbè, amica mia, è come dire, ci ho avuto... piccole, che si ricordano? Si ricordano di me, e dunque non ti chiamano. Ma significa, amica mia, significa che tu... Adesso non sai fare una mazza, che ti devo dire? Cioè, io non so fare una mazza. Ma evidentemente adesso non sai fare niente di più che di quello che facevi vent'anni fa. E che ne so? Ma non hai messo la prova. E che c'ha la malattia, come diceva Sordi, che c'ha la malattia. E che ti è successo in questi mesi? Ma allora perché uno intraprende un lavoro deve fare quello per tutta la vita? Ma dove è scritto? Vabbè, come non l'ho capita. Ma io non ti capisco, amica mia. Allora mettetela alla prova la persona, no? Eh? perché dovete macchiare a fuoco? Mettetemi alla prova. Ma mettetemi alla prova dove? Chi? Ma quando? Ma come dove? Mettetemi a vendere i tappeti, Tele Lombardia. Ma chi se ne frega? Ma questa qua è una chiamata di una persona, perché ha detto con tutto rispetto, che dice: io sono discriminata perché non mi chiamano nelle trasmissioni. E noi, la nostra risposta è: buona fortuna, cara Pamela Neri. Buona fortuna, vieni. Ma dal sindacato, se no. Ma quale sindacato di chi? Dalla signora Camusso. Il sindacato delle pornostar. No, la signora Camusso. La signora Camusso. Non lo so, potrebbe prendere sul serio la vicenda della signora Pamela Neri. Comunque, Pamela Neri ha qualcosa da dire che non ci vuole dire. Cara signora Pamela Neri, ma perché? Non voglio dire. Cioè, ma io ho detto tutto quello che dovevo dire. Io posso fare anche i nomi. Ma quanti anni hai? Parliamo della moglie di del napoletano. Di chi? E noi dopo le sette di fuori, Rai. Ma scusatemi, La moglie di? Anna Tatangelo. Vabbè, ma chi se ne frega? Ma di cosa parli? Di cosa stai parlando? Ma parlo della discriminazione che fanno. Ma allora, quale discriminazione? Tutte mostrano tette e culo. Vabbè. Pamela, Pamela, Pamela, Pamela, cara dai, amica dimmi, mia. Dai. Cara amica mia, fammi un discorso la prossima volta più raziocinante, un discorso più razionale, perché se mi devi dire sono stata discriminata perché non so per quale motivo, non andiamo adesso. Ma non me l'hai detto. Ho lavorato con Maurizio Paradiso e vabbè, ognuno ha lavorato con Maurizio Paradiso. E allora, ma se hai lavorato con Maurizio Paradiso? Ho capito, ma Maurizio Paradiso non è il rettore della LUIS. Adesso. Capito. Ma cosa c'entra? Adesso passiamo di paragoni stupidi. Poi scusa, hai fatto pure dei cosi con Di Pre, ma quello abbiamo toccato veramente il fondo in quel caso. Di Pre, parliamo di 8 anni fa quando era sano. Quando ha contato Parte Masi, magari è andato un po' fuori di testa. Dai, Pamela. Io ho fatto delle interviste con Di Pre. Io ho fatto delle interviste. Vabbè, amica mia, adesso a me adesso non mi interessa quello che hai fatto. Allora, solo mi sembra che Se una persona è capace, ha delle qualità per fare qualcosa, oppure che ne so, magari. Io sono incapace. No, ho detto se ha delle qualità per fare qualcosa, tu evidentemente fai qualcosa, ma altrimenti non so, cioè ci sarà qualche. La discriminazione nei confronti di Pamela Neri! La discriminazione nei confronti di Pamela Neri! Dai, su, e dai! Ma stiamo scherzando? Ma le ho avuto le prove contro prove io! Le prove contro prove! Ma le prove di sì. Le prove ma contro prove! Ma di cosa sto parlando? Questo è come il faraone nero! Paperissima Sprint! Ma chi è questa che fa film porno Paperissima Sprint? Chi fa i film porno e fa Paperissima Sprint? Scusate! Eva Enger! Ma Eva Enger! È stata la moglie di Schicchi! È stata la moglie di Schicchi! Ma roba è carina! Ma sì, ha avuto un ruolo! È stata una pornostar famosa! Una roba incredibile, guarda, cioè, ma Pamela, incredibile veramente, Pamela ma Neri, ma siamo in Italia, bisogna andare avanti, non regredire, bisogna progredire. Signora, scusi, io non ho ancora ben capito quale sia il suo talento, oltre a mostrare il culo. Adesso, mi scusi se sono il crudo. Culo, certo, tempo, okay? Che il c'hai? Culo, scusami, Pamela, hai delle, facciamo Pamela Neri, ha per caso lei delle qualità teatrali? Ha delle qualità da attrice? Quali sono le sue qualità? Non si sente più niente. Vai, ciao. Chiama veramente gente di tutti i tipi qua, gente. Ma dovresti interrogarti però. No, Pamela, però è da approfondire questa Pamela Neri. Dovresti interrogarti perché ad esempio Dalimonte, il professore, non chiama mai. Ma quello, meno male, Aldo da Roma, dai. Meno male, dai. Ma vergogna. Aldo Roma, vai. Dovresti interrogarti il perché. Aldo da Roma, Aldo. Pronto? Dimmi Aldo, dimmi. Sì, ciao, volevo commentare la tua affermazione. Sì. Cioè che non esiste il femminicidio. Sì. In realtà invece è proprio il risultato di una cultura che fino a qualche anno fa in Italia giustificava il delitto d'onore, ma in altre culture giustifica l'acido in faccia alla fidanzata o alla moglie lasciata. Ma quelli sono dei reati gravissimi, cosa c'entra questo col femminicidio? Si vuole dire che c'è in Italia un nuovo fenomeno che è cosa che non è vera, cioè l'uccisione di donne da parte di uomini, per questo si dice il femminicidio va in qualche modo deve essere. Scusa, proprio per un effetto di questa deformazione culturale, è un omicidio specializzato, non è soltanto dove il maschio c'ha sempre la parte attiva e la femmina purtroppo c'ha sempre. Altrimenti non si chiamerebbe femminicidio, si chiamerebbe maschicidio. Però Però è proprio sì, però, un fenomeno di costume ben motivato. Non è questione, ma no, so, è l'omicidio di donne da parte di uomini. È gravissimo, quello ma che vi pare, eccetera. Per motivi più vari, la gelosia, il possesso. E qual è? Nel momento in cui una donna ti lascia, invece di pensare a dove hai sbagliato, dove è che eri cretino, sì, dici questa l'ammazzo perché lasciato. Benissimo, dunque? E dunque che ci vuole? Un aggravante? Questo. Ci vuole un aggravante in questi casi? No, spiegami, ci vuole un aggravante? Sì. Ah sì, cioè se un uomo uccide una donna ci vuole un aggravante. Se una donna uccide un uomo non ci vuole un aggravante. Ma ragazzi, ma siete impazziti o no? Il femminicidio è una roba inventata, un termine inventato, per dipingere un fenomeno che non è di adesso. Gli uomini, per mille motivi che non stiamo qui ad elencare, è evidente che uccidono più le donne di quanto le donne non facciano con gli uomini. Per milioni di motivi. Bisogna dare più anni a uno che ammazza una donna rispetto a una donna che ammazza un uomo? No! Certo. Tu sei completamente fuori di testa ormai. Cioè, un uomo che ammazza una donna deve prendere 25 anni, metti. Certo, e una sì, donna che ammazza un uomo 20 anni. È una roba pazzesca, dai, ma non diciamo ma non diciamo veramente delle stupidaggini colossali. Che ti ha citato questo attento ascoltatore, il caso dell'acido di Lucia Annibali. Ma quella è un'altra cosa, ma quelli sono dei reati già presenti, se una donna il reato, ma l'aggravante. Ma scusami, il caso contrario di quella là a Milano, no? Quella della coppia dell'acido, lei non è che era una donna che ha buttato l'acido, che l'abbia fatto lui o lei, adesso poi vedremo, non è che cambia molto, cioè non è uguale, è identico. La violenza nei confronti della donna. Allora, con noi Matteo Salvini, buonasera, buonasera. Buonasera dal quartiere Prati. Roma. Ma un uomo deve ricevere più anni, secondo te? Stiamo parlando del caso, naturalmente, quello là di Sara, quella che è stata bruciata. Madonna, che verme. Verme lui e vermi quelli che non si sono fermati a soccorrerla. Sì. Permetto di aggiungere. Anche se è complicato, Matteo, per le persone capire esattamente quello che sta succedendo. Cioè, non è semplicissimo. No, perché io però, se per caso vedessi alle 3 di notte una ragazza che urla, fermarmi mi fermo, poi chi vivrà vedrà. Ma vabbè, ma non ho capito, secondo te gli uomini devono avere, cioè bisogna che ci sia un aggravante per l'omicidio delle donne? No, mi sembra una parenzata, l'omicidio è omicidio, sia che lo faccia un uomo, una donna, un biondo, un moro, un castano, uno che ammazza non deve più uscire di galera, punto. Si chiama femminicidio. Il problema vero è che il rischio è che questo qua, se anche venisse condannato all'ergastolo, fra 10 anni ce lo troviamo fuori con i permessi premio. Il dramma vero in Italia è questo. Sì, no, ma questo non c'è dubbio. Si chiama femminicidio. Ma il femminicidio non esiste, è una cosa inventata dai media. Ma perché il maschicidio, voglio dire, adesso non è che se uno ammazza sta in galera fino alla fine dei suoi giorni. Come esiste la legge Mancino, perché tu dici a un albanese di merda, è un aggravante. No, veramente non è così, albanese di merda. Quella legge è un'idiozia, perché se uno mi dice italiano di merda... Ma che c'entra? Cos'è? Che cosa vuol dire? Come cosa c'entra? Adesso se uno insulta, se uno picchia, se uno ammazza, a prescindere dal motivo per cui lo fa. La legge Mancino prevede l'aggravante per l'odio razziale. I reati di opinione sono una follia. Cioè, secondo te la legge Mancino... I reati di opinione sono una follia. Noi abbiamo provato a raccogliere le firme per cancellare la legge Mancino. Cioè, perché la legge Mancino per gli aggravanti... Ognuno è libero di dire quello che vuole, e poi è la gente che dice questo dice una cacchiata, quello dice una cosa giusta, adesso... L'aggravante etnica, per fortuna, ancora è un reato. Secondo me su questo ha ragione Salvini, anche secondo me le aggravanti, cioè se uno ti offende allora tu hai tutti gli strumenti per andare in tribunale, eccetera, eccetera. Per motivi razziali, per ragioni storiche, da noi guarda, è ritenuta più grave. Ormai se non cambiamo qualcosa, se lasciamo andare avanti Parenzo e Renzi, fra un po' saranno gli italiani i profughi a casa loro. Quindi, no, ma senti una cosa, però ma io immaginavo che nel giorno in cui aspetta, adesso arriviamo agli immigrati, però il femminicidio dunque non esiste secondo te? No, come un reato barbaro, bastardo. No, però, femminicidio esiste, questa parola no? Sì, ma è giusto, perché ci sono troppi uomini che finita una storia pensano di risolverla vabbè, questo, d'accordo, ammazzate, e mi sembra una follia, le donne sono molte di meno, ovviamente, Poi altro dramma invece sono i papà separati, perché spesso e volentieri dopo la separazione e il divorzio, vabbè, questo è un altro problema, si rivalgono sugli uomini, sulla casa, sui figli. Scusa, e però lì tra... la giustizia è squilibrata al contrario, però tra femminicidio, cioè tra l'uccisione delle donne e le donne che fanno un mazzo così al marito dopo la separazione, c'è una differenza o no? Ma io ripeto, quello lì lo metterei in galera fino alla fine dei suoi giorni, punto. Ma come se fosse stata una lei ad ammazzare lui, evidentemente. Sì, allo stesso modo, dunque la parola femminicidio, cioè nel senso di no, cioè nel senso di reato specifico, non esiste. Questo voglio dire. Ma qua il dibattito è boldriniano. Sì, un po' boldriniano. Andiamo nel boldrinismo. Non è boldriniano, anche in altri paesi civili esiste. No, un uomo che uccide la donna, un uomo che uccide la donna prende me. Faccio presente a loro signori maschietti, noi tre che siamo all'ascolto, che lo stupro è tecnicamente un reato maschile. Sì, ho capito, ma non c'è differenza però nel codice. Io, scusate, non ho mai visto una donna che stupra un uomo. A parte che ci sono dei casi, ma sono punite allo stesso modo. Non ho mai, se non fosse... Sullo stupro cadi a proposito, perché noi sono anni che come Lega proponiamo la castrazione chimica per pedofili e stupratori. Mi piacerebbe sapere Parenzo cosa ne pensa. Ma questo tizio qua, questo che violenta una donna o un bambino, secondo me non è recuperabile alla società. Sono a favore della castrazione chimica. Ma sono d'accordo con Parenzo. Ma questa l'ho detto già altre volte. Allora, questo signore qua che ha bruciato vivo questa qua, cosa andrebbe fatta questo signore oltre che no, in galera tutta la vita. Niente castrazione. Io sono contro la pena di morte. Io sono contro la pena di morte per mia formazione culturale personale. Mi basterebbe che non rivedesse la luce del sole da uomo libero, cosa che purtroppo in Italia rischia di fare. Però Parenzo, tu ti sei incazzato prima perché Salvini, nei giorni in cui ci sono stati dei morti in mare, detto che nel giorno in cui c'è stata quella strage di bambini non in mare, è strage, la morte è diversa, la strage è commessa da scafisti, commessa da scafisti che scappavano dalla guerra. Ma non scappa, chi ce li ha messi su quei barconi, quei bambini? Se un genitore decide di mettere il proprio figlio su una di quelle carrette è un criminale, è un criminale, è un criminale. Pensa che abbia più chance di vivere rispetto a chi rimane nella sua terra. Già questo basterebbe. Ma nel giorno di quei morti lì, il signor Salvini, l'abbiamo visto mi pare a Sky TG, non ricordo dove, ma ci diceva che è in atto un'invasione. Ma nel giorno in cui sono morti i bambini, ma quale invasione? Un genocidio. Ma che c'è? Sono due cose diverse, no? Un genocidio. Ma sono due cose diverse. Dei bambini, ragazzi miei, quale genocidio, quale invasione? Sono morti in mare, nessuna invasione. Ma sono due cose diverse, vabbè, Salvini. Ma guarda, se non è un'invasione, l'ha detto perfino il Corriere della Sera, 13.000 sbarchi e 700 morti in una settimana, quei morti pesano sulle coscienze dei buonisti alla Parenzo, perché più ne partono più ne annegano. Cioè i bambini morti di chi sono colpa? Più ne partono più ne annegano. E non fare i umanitari. Ma sì, svuotiamo l'Africa, portiamo 1 miliardo di africani in Italia. Ma guarda tutti che la a casa gente non è che ha voglia di venire qua, ragazzi, perché gli fa piacere vedere Salvini. Il problema è che i rifugiati veri sono il 10% di quelli che arrivano e piazziamo in albergo. Quindi per quel 10% sì, bisognerebbe fare di tutto perché non arrivassero sui barconi, ma identificarli in Nord Africa e portarli qua con le carrozze. Ma gli altri 90% no, gli altri 90% devono essere riportati a casa loro per ricostruire i loro paesi, anche perché, ripeto, qualunque essere umano normale, italiano, immigrato regolare che sia, che passeggi per Milano, Roma, Bologna o Torino, in alcuni quartieri si sente straniero in casa sua e questo mi dà un enorme fastidio. Ma ragazzi belli, qui stiamo parlando di un'altra cosa. Scusa, ieri, ma tu che c'è successo? Era il giorno del silenzio. Ma che vuol dire il giorno del silenzio? Adesso perché muoiono delle persone non si può parlare, ma sono delle stronzate inaudite. E vabbè, muoiono dei bambini. No, va bene, succede. Il giorno lì dire che è in atto un giro. La cultura di Parenzo è quella dell'ipocrisia di sinistra dopo la strage di Lampedusa. Ogni barcone affondato per loro facciamo finta di niente, poi facciamo i corridoi, li salviamo, ma li portiamo indietro. Ma vi pare normale che le navi della Marina Militare Italiana li vadano a prendere a 30 km dalla Libia e li portino in Italia? Ma li riporti indietro, fratello mio? Cioè, i bambini vanno rimandati indietro, secondo te? Ma non dovrebbero partire. Vabbè, non quello d'accordo, ma i bambini non dovrebbero partire. Sì. Vabbè, d'accordo, quello lo sappiamo. Li ma i bambini nei porti di partenza. I bambini... E là identifico i rifugiati veri che hanno tutto il diritto di venire in Italia, che sono il 10%. I rifugiati finti. Dunque, anche i bambini vanno riportati indietro. In albergo No, quelli che scappano dalla guerra, soprattutto donne e bambini, sono sacri. Io di bambini ne vedo pochi in giro negli alberghi italiani. Vedo tutti i ragazzi di 20 anni, belli robusti, col cappellino, le scarpe da tennis, il telefonino e le cuffiette. Ancora con le scarpe da tennis. Che tutto mi fanno impressione, tranne che sia di essere in cioè, nei campi profughi, ma il telefonino ce l'hanno tutti ormai, anche quei quattro sciagurati che ascoltano Radio Padania hanno il telefonino. Che c'è? Solo che quei quattro sciagurati se lo pagano. La differenza tra gli italiani e i finti profughi è che gli italiani se lo pagano, mentre i finti profughi stanno in albergo, se poi non gli vanno bene gli spaghetti fanno pure casino. Senti, ma qualcuno ha dato, credo il vicepresidente del Senato della Camera, chi è la Fedeli, quella con i capelli rossi, a Salvini dell'Eversore, alla Camera. No, ma dell'Eversore, perché ha detto che la festa, com'era la frase, la festa della Repubblica, com'è la festa della Repubblica? Ma il 2 giugno cosa c'è da festeggiare? Io ho detto che è una festa della Repubblica invasa e disoccupata. C'è poco da fare le parate, i festeggiamenti, gli sventolini. Per cui non andrai. 4 tu. Milioni di italiani disoccupati, 1,5 milioni di bimbi in Italia. Non bisogna fare la parata. Cosa c'è da festeggiare? Io eviterei un giorno di festa, io risparmierei quei quattrini. Per cui bisogna. Non l'ho presa in giro. Per cui bisogna anche. La parata non bisogna farla, dici? Ma io risparmierei quelle scene di ipocrisia. Risparmiare. Per rispetto a chi ci ha rimesso la vita per difendere questo paese che adesso è invaso tranquillamente, tutti sono contenti, quelli di sinistra. Però avanti, chi dice invasione, e poi c'è chi ribatte, no, ma i numeri non si parla di invasione. Ma certo che non c'è nessuna invasione. Ma cosa vuoi che siano 13.000 persone in una settimana? Cosa vuoi che siano? Cosa vuoi che siano? È normale. Alfano ne manda 70 per provincia, sì, ma distribuiamone un po' a Piacenza, un po' a Bologna, un po' a Cuneo, un po' a Frosinone, certo. Ma come no? Un po' nel giardino di Parenzo. Senti, no, tu la chiese come a Ventimiglia, dove quello straordinario prete oggi ha aperto la sua chiesa a quei poveretti che stavano per strada. Beh, quelli stavano per essere sgomberati, in realtà poi sono rifugiati in chiesa. Io ricordo le parole di Papa Benedetto XVI che difendeva il diritto a non emigrare, non il diritto a immigrare, il diritto a non emigrare. Purtroppo sono gli italiani. Sono gli italiani a essere messi in condizione però, di emigrare. Salvini, volevo chiederti una cosa, ma oggi c'è stato un caso anche a Torino di morte di un bambino circonciso, c'è stato un errore, la circoncisione però fatta in casa, ma tu la proibiresti la circoncisione? Un bambino islamico, un bambino di religione islamica, cioè di una famiglia di religione islamica. Ma guarda, mio figlio l'ha subita per motivi clinici, ma l'ha fatto in ospedale. Ma come pratica, ti piace o no come pratica? Ma basta fare all'ospedale. Se è per motivi clinici, medici e sanitari ci mancherebbe altro, però io penso che all'Islam in Italia stiamo permettendo troppo, dall'infibulazione alle cure mediche abusive. Ma quindi non c'è nessuna infibulazione. No, che viene no, ma la circoncisione non esiste in Italia. Figurati, la circoncisione come no. deve essere fatta. Infatti, se ci fosse un'intesa tra lo Stato e le comunità islamiche, questi episodi non capiterebbero. Mai. Se ci fosse un'intesa con qualcuno per cui sono un infedele che va cancellato dalla faccia della terra, ma non scherziamo. Ma non ho capito se ti piace come pratica la circoncisione o no, non ho capito. Ma se per motivi medici, ma ognuno è libero di fare quello che vuole in base al suo credo, alla sua religione. Se rispetta la vita, quel bimbo evidentemente ha dei genitori che non rispettavano la vita. Allora, fermi un attimo, poi gli ultimi due minuti, fermo, pubblicità. Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. La zanzara. Cruciani, io per la marcia dei puttanieri voglio portare la bandiera con la faccia di Parenzo sopra e la croce. Ah, ciao. Nave da crociera, fiordi norvegesi davanti, cocktail, sigaro cubano e sto ascoltando la zanzara. Beh, sono in pole position. Allora ragazzi, ultimi minuti con Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, qui alla Zanzara, come ogni lunedì. Allora Matteo, se vince Parisi a Milano, farai l'assessore o no? Non ho capito, una volta ci hai detto di sì, poi non io si capisce. Io sono a disposizione per farlo ovviamente gratuitamente alla sicurezza, perché conosco bene i problemi di Milano. Faresti la sicurezza? Conosco bene i 3.000 uomini della polizia locale che non aspettano altro di poter essere messi in condizioni di lavorare. sgombererei alcuni campi come quello di Muggiano e di via Chiesa Rossa, che non l'avete mai sinistra... fatto in vent'anni. No, no, no, no, guarda, noi avevamo dimezzato la presenza dei Roma a Milano, poi è arrivato Pisapia. Li ha chiamati uno a uno Pisapia. No, li ha chiamati, ma se gli permetti di fare Romania, tutto quello che voglio. Pisapia ha detto compagni o meno. Ma guarda, il bello è che perfino la sinistra adesso si è accorta del problema, e quindi l'assessore alla sicurezza ha detto: io sgombererei il campo rondi via della Chiesa Rossa. Ma certo, bene, ma... fallo. E il candidato Sala, candidato ridicolo della sinistra, ha detto: ci vuole l'esercito a Milano. Ma l'esercito a Milano noi l'avevamo portato, poi è stata la sinistra a mandarlo vabbè, via perché adesso, non al di là di questo, quindi... non ho capito, perché non fai direttamente l'assessore ai campi Rom? Cioè, l'assessore no, ai Rom. I problemi della sicurezza a Milano non sono solo i Rom. Ma i Rom dovrebbero sparire da Milano, è una tua idea, cioè una città senza Rom. I campi Rom, sì, i campi Rom sicuramente sì. Poi se vogliono vivere come gli esseri umani normali in una casa, comprandola, affittandola, facendo il mutuo, per carità di Dio. Cioè, comunque, essere... ma gliel'hai detto a Parisi che vuoi fare l'assessore? Finlandese. Ma gliel'hai detto a Parisi che vuoi fare l'assessore alla sicurezza o no? Cioè... Ma guarda, mi interessa prima arrivare alle elezioni di domenica 5 giugno. Chi vuole vabbè. Può mettere anche la preferenza. Vabbè, quello si sa, dai, però Matteo, scusa, adesso al di là di tutto, tu. Ma io poi sono a disposizione. Se gli servo, mi chiama, se non gli servo, farò altro, per carità. Vabbè, di ma Dio, se voi prendete un sacco di voti, farei l'assessore. Noi pare che prenderemo un sacco vabbè, di voti sì, come se, lei a Milano, ho detto, io se. Sono a disposizione, non mi impongo, mi propongo, non ti mi propongo. Impongo. Sì, ma secondo scusa. Me Parisi è imbarazzato. Perché è imbarazzato? Ma guarda, io sarei imbarazzato perché? Se fossi in Parenzo, che magari vota a sinistra, che hanno gli islamici integralisti in lista nel PD, quello sì è un problema, quello sì è un problema per Milano. Perché Parisi è un po', perché lui è un uomo di centro, un po' imbarazzato dalle salvinate, quindi è un po' così, un po' sulle ma sue. Ma quali sono le salvinate? Scusa, fammi un esempio. Ma non è che fare i comizi insieme, vi siete no, mai, ma fatti, le, mai no, venerdì saremo insieme in piazza Gaia Eulenti, ci sarà anche Berlusconi, ma fammi un esempio di una salvinata, scusa, per capire. Comunque rivedrai Berlusconi dopo un sacco di tempo. Sì. Sì, dopo 2 mesi. Dopo 2 mesi rivedi Berlusconi, chissà. Esatto. Chissà che... Bene. Parleremo di Milan. Parete di Milan. Ma a proposito, hai visto che succede nella curva del Milan? Una cosa incredibile, ho saputo. Ho visto. Ma non andrebbe chiusa quella curva direttamente? No, no, no, io sono per il tifo. Beh, ho capito, pulito. Ragazzi, se ma... ci sono dei delinquenti va messi in galera. Spaccio pare, spaccio di droga. Ah, beh, ma quelli non sono tifosi, quelli sono delinquenti in quanto tali vanno. Ho capito, ma chiudiamo un po', io no? Però, chiudiamo. Ma se lo stadio è bello anche per il tifo, per le bandiere, ma, capito, per ma i se tamburi, quelli sono per... delinquenti, che vuol dire? Cioè... Ma quelle vanno in galera. Ma quelle sono zone extraterritoriali ormai, capito? Zone dove no, è come no, comunque io non sono per chiudere le curve. Ma bisogna chiudere quei posti. Ma no, quella roba no, lì no, è, roba, no, è una no, roba no. Senza legge. Arresta gli spacciatori e lascia che gli altri tifino tranquillamente con la bandiera. Pare facile, ma lì bisogna eliminare un luogo fisico. C'è un luogo fisico. No, no, no, no. Io sono, ho fatto anni no. In curva. C'è un luogo fisico. Tranquillissime. Ma no, sì, che persone tranquillissime. L'1% sì. Di delinquenti li metti in galera, gli altri 99% li lascia andare allo stadio. Ci sono spazi. Io supererei anche la tessera del tifoso, guarda pure. Io supererei tutte le limitazioni, i delinquenti in galera, i tifosi normali vanno allo stadio la domenica. Dai. Va bene, ciao, ciao, a presto, ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora ragazzi, dove andiamo? Andiamo a provincia di Macerata. Gabriele, vai. Pronto? Dimmi. Buonasera. Allora, la prima cosa la voglio dire a Parenzo, perché è una cosa di due mesi e mezzo fa. Quando lui si è permesso di dire, quando Cruciani apriva le telefonate, ha detto apriamo le fogne. Ma questo lo dice sempre, dai. Sempre. Fogna sarà lui e la sua compagna, prima cosa. Vabbè, questo allora, che c'entra, scusa. Okay. Lascitare i parenti, perché non c'entra niente, io non mi permetterei mai di dire, lei è sposato? Tu l'hai detto e mi è rimasta su, qui sul allora, telefono. Guardi qua. E ho avuto l'occasione qua. Te lo dico. Fogna non è sul telefono. Ha tirato lo sciacquone come ai vecchi tempi. Ecco qua. Un ritorno a qualche tempo fa, lo sciacquone di Siena. Eppure, e ti dico una cosa, parlando con sto demente, si è pure intasato, capito? Si è intasato lo sciacquone. Non ho capito. Si è intasato lo sciacquone di Parenzo. Se viene qui, mi dà una mano e mette la mano dentro. La bocca e soffiate. Visto che lei è la cosa utile. Metti la bocca e soffia. Lei è uno stura sciacquoni, venga qui e dammi una mano, va? Parenzo, tanto più di quello non alzi, perché sei basso, sei un nano, sei un barattolo. Ma che c'è adesso? Deve avere uno scapello per arrivare al microfono. Adesso perciò che c'è pure, c'è pure l'insulto sulle, vabbè, dire, sulle caratteristiche fisiche, che è il nano, dai, su. Vabbè. Puoi fare comunque, di meglio, Gabriele, comunque, puoi fare di meglio, vai. Comunque, sentivo parlare di animali. Prima, e infatti ha telefonato. Allora, Se il tipo chiamato in causa e ha telefonato, è evidente. Infatti sono un animale da lecco, vedi da presentarmi qualcuno poi vedrai. Un animale da lecco, ma che vuol dire? Dai, Gabriele. Ha fatto le scuole alte questo qui, eh? E tutti i giorni vengono a fare pipì e qualcos'altro anche i cani accompagnati. Ma dove? Loro... Dove questo? Casa mia. A casa tua vengono dei cani a fare la pipì. È vero, è normale, giusto? Sono a piano terra. Sì. Sono a piano terra, quindi passano, sì, e fanno quello che devono fare. Io mi fanno benissimo. Come? Fanno benissimo. Fanno benissimo, devono cagare ogni giorno davanti a casa sua, è evidente. Se lo merita. Io infatti che cosa ho fatto poi? Perché non bastano le parole. Sì. Se lo merita. Il comune ha fatto un dog park dove hanno messo le altalene, gli scivoli, per... E io ci ho buttato le polpette avvelenate. Beh, questo non si fa però, Gabriele. Prima ascolti. Prima ho messo un cartello la sera. E ho invitato i proprietari di cani di portare a fare le sue cose in quel posto dove è organizzato il comune. Al dog park. Ma in che città è? Che città è? Perché altrimenti si rimetteranno gli animali. Che città è? Civitanova Marche. Ah, dunque, siamo a Civitanova Marche. Dei cani vengono a pisciare sotto casa tua. Ma sai che c'è proprio intasato sto bagno? Ma poi la cosa brutta... Ma questo qua invece è di stupidaggine, non puoi venire a sturarlo? I proprietari, mi faccia parlare, i proprietari vogliono ragione perché io ci hanno presi più di uno. Dico, ma senta, ma è normale che lei venga a fare la piscia qua sul muro mio? E tu sì, perché il cane gli tiene. Dico, sì, io vengo a casa sua. Sta zitta poi? Ma non ho capito, vabbè, questa è una processione. La stessa pipì mia, la stessa pipì dei cani. Però mi pare strano, mi pare strano, Gabriele, che ci sia una processione sotto casa tua da parte di. Ma si faccia una domanda del perché. Ma non ho capito perché voi siete sempre increduli quando una persona dice certe cose. Ma scusa, io ci credo. Ma scusa, ne capisco anche la ragione. Ma come mai c'è questa processione di proprietari di cani verso casa tua per pisciare? Perché ci sarà un motivo. Passeggiano con i cani e passano avanti casa mia, ma più dalla mattina alle 7 fino alla sera. Alla parcheggio. Non dico tutti i minuti. E io purtroppo adesso sto. Ma Parenzo dice, Parenzo dice che scusami, Parenzo dice che è giusto, però. No, ma è giusto, è evidente che sia così, è normale. Ma Parenzo non alza più di quello, è alto 1,20 m, dove cazzo va? No, ma io incentivo, faccio un appello ai proprietari di cani. Di venire, ma anche di uomini, tutti devono venire davanti a casa sua e mostrare il rispetto che hanno nei suoi confronti. Più vengono e più metto polpette avvelenate in dog park. Ma io non a ho capito, ma quanti li mettono loro? Ma io scusami, avvisati, ma sto dog, no? Ma ho capito, ma tu hai ammazzato un po' di cani allora? E chi se ne frega? Vabbè, ma questo è un reato praticamente, Gabriele. Ma perché loro vengono a pisciare a casa mia? Io d'estate sto con le finestre aperte perché è caldo, sento la puzza, quello è fatto bene. Ma chi ha detto che è fatto bene? Non lo so, cerca di rimediare, ma tu hai messo delle... Ma stai a sentire, Parenzo. Scusami, Gabriele, che tipo, dove, che tipo di veleno hai messo dentro le polpette? Adesso basta, che tipo di veleno hai messo? Non ho capito. Che tipo di veleno hai messo dentro le polpette? Quelli che si usano per i grossi topi, che vendono in ferramenta. Ah, tu hai proprio, hai fatto delle polpette di carne, no? Immagino, di macinato, sì, di carne, sì, di masugni. E dentro ci ho messo questo. E dentro ci ho messo questo. Quanti cani hai ammazzato così? Ma non lo so, quel giorno parlavano, poi io vado a sentire là, no? Due o tre, che ne so. Due o tre sono rimasti stecchiti? Eh sì. Stecchiti i cani al dog, stiamo parlando del dog park di Civitanova Marche. Di Civitanova Marche. Benissimo, amici miei, ecco qui l'assassino dei cani del dog park di Civitanova Marche. Si chiama Gabriele dalla provincia di Macerata. Ma è anche il numero di telefono. Ma scusami tanto, io ho speso 1.300 euro per pitturare casa, arrivano questi e sporcano. Ho capito, denunciali amico mio, denunciali, ma no. Ma chi ti dà retta? Ma se ho capito, hai ammazzato... Qui c'è la giunta del PD, quello è il problema. Ho e capito. Io ho chiesto, ascoltami bene, ho chiesto... Ascoltami bene. E ai vigili, no? Sì. Mio figlio è un pittore abbastanza affermato. Pure, ho pittore. Detto, posso venire... Mettermi a lungomare a mostrare, no, ci a vuole mostrare le chiappe chiare, quando no. La sabato, domenica pieno di essere comunitari a vendere le sue cose, a me è proibito e loro lo possono fare, è giusto? Ma non allora, lo so, questo è un altro problema, che me ne frega, no, a me, non lo so. Spesso, perché i cani oggi, io ho detto ai vigili, mettete una tassa sui cani, 100-150 euro al mese, vedrete i soldi che fate. Perché è pieno di cani, più cani che persone oggi. Ma e dunque, Gabriele, tu stai dicendo che esasperato da questa situazione, Ma sicuramente mi dà fastidio. Hai e preso, poi hai preso. Con l'arroganza ti rispondono che hanno ragione loro a fare questo. Però a casa loro non ci vanno. Ti è venuta la brillantissima idea di fare delle polpette, metterci dentro il veleno. E distribuire queste polpette, darle così. È un assassino. Va bene, sono assassino. Assassino. Vabbè, comunque, Gabriele. Lo sciocco io, ma è un assassino. Gente, devono avere più rispetto e educazione. Vabbè, comunque. Sono anni che io combatto. E allora ho superato il limite, basta. E dunque le polpette avvelenate? E certo. Se continuano, continuo anche io. Ciao, Gabriele. Ciao. Beffa la vita, mina amara. Me sto ascoltando la zanzara. La zanzara. Ma la gente che chiama Parenzo per dirgli che deve tornare al suo paese. Quanto siete schifosamente ignoranti. Lotta, David. Lotta che la parte sana del paese è con te. E adesso la parte sana, dai, su, chiaro. La parte sana. No, ma guarda che questo paese è migliore, bravi, continuate, è un bel paese quello che chiama qui e che dice queste parole di cuore nei miei confronti, è lo stesso paese che apre le porte ai migranti delle curie, è lo stesso paese che detesta il populismo razzista dai capelli onti di Cruciani. Ma che cazzo dici? Sei impazzito? Sì, quale populismo razzista? Fermi là, sì. il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, ascoltatori, vai. Però mi sta sulle balle quando Salvini, speriamo che mi sente, quando dice non vogliamo i clandestini, semmi. Ma i rifugiati, come dite voi, dove cazzo li mettiamo qua? Signora di Radio Padania? Nonnina. A chi ti vuol fermare? Senti, io invece voglio parlare non dei profughi o... Che cazzo ce ne frega che continuano a morire, lasciamoli morire, giusto? Signor Barin si è introdotto, signor Barin. Sì, ecco. E ti cullerà. Figlia della libertà, servi di Roma fuori. Non li posso toccare perché sono dell'ISIS. Bombardare questa gente che prepara il barcone per la partenza, no? Pretendo troppo? Li continuiamo a lasciar partire. Va bene, oh come sono contento. Pronto? Senza dubbi né ripensamenti. Dove sono quelli che ha detto facciamo il funerale di Stato? Dove sono i finti budici? Pensano solo clandestini. Anche Ayman contro i clandestini, anche io sono contro i clandestini. Tutti fuori coglioni. Padania libera, viva la Lega. La tempesta come una madre e un figlio. No, a me sa che, come si chiama, il desiderio di Cucciani e Parenzo si avverrà questa volta, che andrà lì a lavare il piede a lui, perché ormai questo programma, capito? Siete chiudendo, capito? Un islamico dice, avete sentito, si avvererà il desiderio di Cruciani, chiuderete e andrai a lavargli i piedi. No, ma la cosa curiosa è che il signor Varin adesso fa il gallo, quando vanno lì le telecamere di Piazza Pulita, sì, fa tutto il moderato. Fa il gatto, fa. Mamma mia, miau, vergogna. Miau. Vergogna. Senti, ma tu preferisci la trasmissione di Sammy Varin o quella di Cruciani e Parenzo? Ti dico la verità, con tutto l'odio che ce l'ho verso, capito, la Lega Nord e verso voi, io ascolto volentieri il vostro programma, non ascolto quel pagliaccio lì di Parenzo. Bravo, e ti taglio lo stesso, bravo. È una puttana, diciamo. Cioè, è detto così perché parlava su di noi. Stasera chiama Cruciani e Parenzo e dice che è meglio loro. Senza dubbi né ripensamenti. Quando faccio sesso col mio ragazzo gli dico traffico. Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it. Vi presenta La Zanzara. Cruciani, ho appena fumato una canna con la mia fidanzata, adesso stiamo guardando Berlusconi e nel frattempo contraggo il perineo. Ah. Mia zia è 140 kg e sta con un senegalese. Tutte le sue cazze di amiche, baghine come lei, cercano il musulmano, il marocchino, il senegalese, il nigeriano, perché tanto gli italiani non mi vogliono. Ma vaffanculo. Stanotte mentre mi scopavo una, pensavo, minima penetrazione, massima estrazione. Minima penetrazione, massima estrazione. Beh! Siamo al top, eh? Siamo al top, eh? La vita reale delle persone. La vita reale delle persone. Sai che non mi convincerai mai che tutto questo è normale. La vita reale delle persone. Non mi convincerai mai. Vabbè, non ti convincerò mai. Mette la propria voce per parlare di queste intimità. Ma è normale, l'intimità sono le parti intime, è lo svelamento delle cose più semplici della vita, alla fine, non sì, delle cose che in teoria dovrebbero rimanere lì, ma è proprio questa la novità, è proprio questa la straordinarietà di questi racconti. Sì, siamo di fronte a una banda di maiali. Ma certo. Non è vero, Rolando da Pescara, vai Rolando. Rolando. Buonasera, buonasera. Dimmi. Io chiamo in riferimento alla telefonata della signora Pamela Neri. Ah, la signora Pamela Neri, sì. Io ho lavorato quasi 15 anni a fianco di Schicchi. Cioè, sei stato il braccio destro di Schicchi, in pratica. No, non ero in braccio destro, abbiamo fatto tante cose insieme. Braccio destro, per modo di dire, insomma, del gruppo di Schicchi. Uno del gruppo di Schicchi. Parenzo, certo. È come dire, c'è il gruppo intorno, che ne so, a D'Alema. È come i Chicago Boys, quelli... Esatto. Gruppo intorno a D'Alema, gruppo intorno a i Renziani, appunto. Invece ci sono gli Schicchiani, qui chiamano, gli Schicchiani. Così. Ma abbiamo fatto delle cose insieme a livello imprenditoriale, abbiamo fatto una TV satellitare, abbiamo fatto tante cose insieme. No, ma io lo sto dicendo in modo elogiativo, caro Rolando. Cioè, voi avete fatto business, quelli che abbiamo citato noi. Abbiamo fatto business, bravissimo. Avete fatto business col sesso, naturalmente. Con quello che era. Io ho fatto televisione, lui ha fatto ben altro. Per me era solo ed esclusivamente una fonte di guadagno, un lavoro che ho portato avanti. Sì, ma che hai fatto esattamente? Sempre nel mondo del sesso, sto dicendo, non nel campo dell'ingegneria elettronica. Cioè... No, assolutamente. Ah, ecco, la TV satellitare, i siti internet, tutto quello che ruotava attorno a Zio Futura, a Riccardo e compagnia bella. Ma il mio intervento era solo per dire che... nella vita, e specialmente in questo settore, va avanti solo chi ha delle caratteristiche, delle doti. Purtroppo questo mondo, il mondo del sesso, il mondo della lap dance, del porno, delle sex star, è fatto così. Quindi la signora Neri, che non se la prenda così tanto. Sì, ma poi tu la conoscevi questa signora Neri? Sì, la signora Neri io la conosco. Certo. Ecco, ma come si può definire? Io la definisco, leggo così a prima vista su Google, eccetera, porno star, vera e propria. Allora, la signora Neri ha fatto una riflessione logica ed ha detto che lei non ha fatto mai film porno. Ha capito, però ha girato delle scene porno anche da sola. Esatto, è questo che ha detto la signora Neri. Adesso il termine pornostar, io non so se sia giusto dire ha fatto dei film hard, dei film porno, quindi è pornostar, oppure ha girato uno spezzone di film, un film amatoriale e non è una pornostar. A me mi hanno mandato delle foto abbastanza esplicite, poi magari non è lei, non è lei, che ti devo dire? Comunque il punto non è questo. Che volevi dire, Rolando? Che se uno ha qualità va avanti, altrimenti no. Cioè. Altrimenti deve prendere ciò che la vita offre. Questo mi è stato insegnato, questo Riccardo diceva sempre. Riccardo, che non è Riccardo... È Riccardo Schicchi. Riccardo Schicchi. Che è venuto a mancare qualche anno fa, lo sapete. Dunque tu conoscevi anche la mitica, come si chiama, l'ex compagna di schiena? Mitica Cicciolina, conosci tutti? Conoscevo Cicciolina, ho conosciuto tutte la le ragazze. Moana Pozzi com'è morta secondo te? Moana Pozzi è morta e io ho parlato tante volte con Riccardo. È un interrogativo che si può di un male, di un male incurabile. Questo di un male incurabile. Questo è stato detto a me tante volte. Rolando, ti saluto, ciao. Sì, grazie, buonasera. Arrivederci. Questo sembrava tutto tranne che un imprenditore del porno, cioè sembrava quasi un prete, diciamo, dalla voce, quasi un prete. Umberto Vercelli, vai Umberto. Ciao Cruciani, rapidamente, ti sta succedendo una cosa straordinaria, stai capendo una volta per tutte il significato e il perché del termine femminicidio. No, veramente no, ho detto che non esiste questo termine, secondo me. Appunto, te lo sto spiegando, ti siedi, prendi un taccuino e prendi appunti. Sì, sto prendendo allora, appunti, guarda, c'ho la penna qua davanti, benissimo. Pendo dalle tue labbra, Umberto. Allora, benissimo. Ascolta, se un uomo uccide una donna... è sai un che hai la, voce, un po' trans, tu? No, però ascolta. No, ma te lo dico sul serio, ma non era una. Non era affatto un insulto, è tutt'altro. Certo. Se un uomo uccide una donna, genericamente è omicidio, ed è quello che stai dicendo tu, e sono d'accordo nella generalità della situazione. Poi, professore, è uguale a qualunque altro tipo di omicidio. Poi, professore, dimmi. Il femminicidio è una cosa differente. Sì, maestro, è un uomo che uccide una donna con la quale ha intrattenuto o intrattiene un rapporto. Fino a qui siamo uguali. Fino a qui è uguale. No, non è la stessa cosa. Uguale, identico. Però, identico. Però ascoltami, se mi dai 30 secondi per terminare il compitino, se no non riesci a comprendere la questione. No, ma infatti sono ignorante. Benissimo. Con la quale ha avuto o ha un rapporto affettivo che o è partito dall'inizio o è diventato patologico. Questo è il femminicidio, né più né meno. Poi posso essere d'accordo con te. No, ma guarda, amico mio, amico mio, la stessa patologia si può trovare nelle donne. Dal punto di vista di penalità è un altro. Ma la stessa patologia si può trovare nelle donne, è inutile, hai fatto una spiegazione, hai dato una spiegazione che si può applicare anche alle donne. Hai imparato una cosa nuova. Sì, non c'è dubbio, vai a casa adesso, camomilla a letto, a camomilla e a nanna, Cosmo, Milano, vai. Eccomi qua. Allora, prima di ringraziare il mandante dei macellai, il signor Cruciani, faccio notare a Parenzo che ha definito orco quel pastore che ha influenzato, irretito la ragazzina adolescente. Faccio notare che Parenzo non gli è da meno. Parenzo non gli è da meno con quello che accade quotidianamente nella trasmissione dove lui è coprotagonista. Cosmo? Tutti i giorni con violenza ci si rivolge alle minorenni, con oscenità, minorenni maschietti. Scusi, Cosmo. Aspetta, che evidentemente sono al libero ascolto. Professore, Cosmo, io ringrazio. Guardi che l'ora dei dementi era tra le 19.30 e le 19.45. Vai a cagare, tirla. L'orario dedicato ai dementi era 19.30 e 19.45. Tirla, vergognati. Capito? Allora, vergogna di che? È fuori orario. Cruciani? Dimmi Cosmo, dimmi Cosmo. Allora, io ti ringrazio perché ho trovato... Il merito dalle tue trasmissioni ho ricavato la forza di non mangiare più carne, però secondo la tua logica che i macellai sono giustificati perché loro per lavorare devono uccidere gli animali, no? Vabbè, dunque, e la frase bellissima di Francesca Geloni: ci sono due modi per alimentarsi, uno far soffrire degli esseri viventi, un altro no. Io scelgo il secondo. Vabbè, abbiamo capito. Però dunque, tu, la tua tesi vuol dire che i macellai agiscono così perché tu ne sei il mandante, perché ci sono dei mandanti. Ma dove salta fuori? Fanno sì che come i boia, ma da quale antro salta fuori? Attuano le pene capitali. Sì. Ci sono. Fino agli stessi cittadini degli stati che consentono l'abominio della pena di morte, circa la quale io ritengo che tutti coloro che ne sono a favore sono addirittura peggio degli esseri che loro intendono condannare a morte. Sì. Lo ripeto, coloro che sono in favore della pena di morte, arrivo a dire che sono addirittura peggio. E poi, ma di chi? Peggio di chi? Il papà della ragazzina, il papà della ragazzina, lui è uno grosso, no? Allora è un vigliacco, perché lui dice: io glielo faccio pagare. Tutti quelli che usano la forza, la violenza. Ma di che stai parlando? Ma di cosa stai parlando? Lo fanno contro chi è più debole. Cosmo, ma di che stai parlando? Sono degli sporchi vili. Ma di chi parli? Perché non ha paura delle lame? Le lame, le sai lame. Cosa sono le lame? Quale lame? Quello lame. Grosso, l'energumeno. L'energumeno. Il papà che poi fa delle riflessioni per, da parte sua e da parte della mamma. Ah, sta parlando del padre. Come che... possono avere trascurato la loro figlia e lasciato in ma perché sei passato da un argomento all'altro? Lascialo parlare, okay. Mettilo. Ma perché se... io interloquisco, su quale punto volete contraddire, volete confrontare? Ma non c'è nessun punto. Non c'è nessun punto. Io non mi voglio confrontare con Cosmo. I grossi guarda che io sono 100 kg, no? Non ha paura delle lame, no? Lui ma quali lame? Contro i suoi muscoli. Allora lui vuole a esercitare la violenza perché è un vigliacco, sì, contro chi ecco, lo può fare, ho chiamato, contro un soggetto che è più debole. Ho chiamato. Meno male, va? Di lui. Cosmo. Quindi è un lurido vile. Cosmo. E allora deve sapere, sì, che qualcuno per difendersi, per evitare di essere, sì, sopraffatto da un energumeno, sì, no? Sì. Possa. Senti Cosmo, lana, adesso arriveranno, sì, certo, non c'è non dubbio. Hanno paura di questi arriveranno dei signori, lana, arriveranno dei signori, sì, sì. Che addirittura arriveranno papà, dei signori in camice bianco. Vabbè, ragazzi, lasciatelo parlare, intanto adesso lo rincorrerò il giorno che verrà fuori e con me avrà da subire perché siamo al top, ragazzi, siamo al top. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta La Zanzara. Dopo una notte passata ad ascoltare podcast della Zanzara guidando, non ne posso più di te, di Mauro da Mantova, delle puttane, della via di Almirante, dei vegani, non ci si capisce più un cazzo, sei veramente un coglione. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora ragazzi, dove andiamo? Claudio Torino, vai Claudio. Ciao ragazzi, ascolta, io vi chiamo per quel imbecille mentecatto di Civitanova Marche che prima ha asserito di aver ucciso dei cani con delle, sì, polpette avvelenate. Dunque, io non sono né vegano, ho un cane, sono un moderato animalista. Però se voi fate passare delle chiamate del genere e non fate assolutamente nulla... Ma che dobbiamo fare? Cioè, scusami. Voi dovete quantomeno... Quantomeno che la gente sente questa trasmissione, chi vuole fare una denuncia fa una denuncia, chi vuole fare le sue indagini fa le sue indagini, che dobbiamo fare noi? Ma le indagini... No, qua hai assolutamente ragione, io sono d'accordo con te, però un imbecille del genere voi dovete quantomeno denunciarlo, se no vi rendete complici di queste assurdità. Ma non siamo complici di niente, cioè questo qua ha fatto un'affermazione tutta da verificare, secondo la quale siccome ci sono dei cani che vanno a pisciare sotto casa sua, lui ha fatto delle polpette avvelenate, è andato al dog park, non so dove, a Civitanova Marche, e ha avvelenato qualche... Denunciatelo comunque. Ha distribuito delle polpette avvelenate per ammazzare qualche... Ma come si può denunciare? Ma come già c'è un sacco... Ho capito, c'è un sacco di gente che mi ha chiamato da Civitanova o da altre parti dicendo adesso faremo delle verifiche se veramente ci sono state delle morti. Sospetti, oh, dai. Questa è una buona notizia che date, perché sennò si passa il messaggio che oramai qualsiasi coglione in questo bel paese può fare ste puttanate, ammazzare un cane che per molte persone, anzi per tutti, chi ha un cane è un figlio, gli muore il cane. Figlio, non esageriamo, dai. Ma ho capito, ma per carità, va bene, ognuno può sentire verso il cane tutti i sentimenti che vuole, non bisogna ammazzare i cani, ma questo non c'è manco bisogno di dirlo, cioè chi pensa che io dica un'altra cosa o che sostenga il contrario è un coglione, capito? Cioè semplicemente un coglione. Altro. Quelli sono i classici fondamentalisti. Va bene, ciao, adesso verificheremo, ciao. Dove andiamo? Andiamo a Firenze, anzi Rimini, Andrea, dai. No, io volevo chiedere al professor Parenzo, sì, io sono uno studente che è il più fulgido esempio di buonismo, catto comunista, anche se ebreo. Nessun buonismo né catto né comunista, quindi hai già detto tre stupidaggini in 20 secondi. Volevo dire, siccome io sono senza parole perché ho i figli più grandi dei suoi e una ha 24 anni, di fronte a una cosa come quella di Roma in cui l'ha ammazzata e bruciata, ha confessato, lei se la sente di dire che io sono un coglione? Che invoco la pena di morte per siffatti personaggi? Ma no, ma la pena, la pena di morte uno può essere a favore della pena di morte, è legittimo essere a favore della pena di morte, cioè tu pensi che quel tizio che ha ammazzato la ragazza bruciandola viva dentro la macchina meriti la pena di morte, va bene, per carità, cioè Andrea, cioè no, sostenere la pena di morte non è un reato, cioè vabbè, ci mancherebbe altro, volevo solo che mi rispondesse Parenzo. Ma Parenzo è contrario alla pena di morte? Contrario alla pena di morte. È già finita così. E vabbè, ma come, che devi dire? Se tu vuoi la pena di morte, lui è contrario. Anche di fronte a un delitto terribile, e non vuol dire che giustifico quell'assassino, Beh, vabbè, certo. Qualche strozzo chiama, ovviamente, prende il telefono 800-24-0024, oh, Parenzo difende l'assassino, no. Sì, mica siamo scemi. No. Beh, sì, diciamo, il 99% sì. Vabbè, Andrea, ciao. Zeno da Roma, vai, Zeno. Prego. Senti un po', ma volevo sapere una cosa, ma io devo dire sempre che ho un'età diversa da quella che c'ho in realtà. Io ogni volta chiamo, dico sono Edoardo, ho 23 anni da Roma, la signorina mi odia. Perché mi odia. Ti odia? Che ho fatto? Ma che ne so, penserà che sono un ragazzino, capito? Senti un po', come stai, Cruciale? Io la smetti di rompere i coglioni a quelli che ti chiedono come stai, ti vogliono bene. Mi dice, dai, ma stai facendo tutto da solo, Zeno? Come stai? Mi dici, stai non facendo mi Zeno, tutto... ma chiami Edoardo, te l'ho detto un secondo. Edoardo, va bene, d'accordo. Edoardo, so tranquillamente. Senti, poi, comunque io farò quello che fai te, eh? Cioè? Lo sai? Cioè? La zanzarina faccio. Sì, che vuol dire? Senti, poi, se io vengo a Milano sotto lo studio tuo, mi fai entrare, mi fai il selfie, ma non fai il selfie. Davide, fai te con questo qua. Ma uno chiama per viste cazzate. No, fai te con questo qua. Ma cosa vuoi che faccia? Prendi in mano te la situazione con questo cretino. Ma dai. Non c'è da prendere in mano, c'è da prendere la generalità e farlo ricoverare. Che ride. Un sacco, quello là che fa. Volevo sapere da Parenzo. Volevi sapere da Parenzo? Ma perché? Ma chi è che vuole sapere da Parenzo? Edoardo, arriviamo a una conclusione o no? Edoardo, perché? Sì, volevo dire una cosa. Dimmi. No, allora, anzi, Edoardo, perché non è andato all'estero con la fuga dei cervelli? Questo è il punto. Posso spiegarti una cosa di diritto? Vabbè, mo' adesso tu cazzate, mo' ti posso spiegare una cosa di diritto. Dai, dimmi, forza. Ma tu sei laureato in legge? Non lo so, io mi seguo da pochi, un mesetto. No, non è laureato. Okay. No. Perché parli sempre di Stato di diritto? Ma chi? Ma il Parenzo. Ogni non ho capito, perché uno che parla di Stato di diritto non è per forza deve essere laureato in legge. No, e poi quando parla dei cazzi di quello che gli interessa, del tifoso della Roma, De Santis, che ha ammazzato il tifoso del Napoli. Vabbè, non c'è niente da dire. Ciao, Edoardo, t'ho salutato già. Ciao. Vladimir Luxuria con noi, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Come la va? Con questo Gay Village che apre trionfalmente il 1 giugno, non mi inviti più, maledetta. Ma c'è bisogno di invitarti, tu hai un invito open. Beh, lo so, dovrei avere una tessera gold, bisogna dire la verità, anche se molti non sono d'accordo, dovrei avere una tessera gold, però verrò, credo, nelle prossime settimane, prima... Vabbè, insomma... A Roma? O Padova? A Roma, sì, a Roma. A Roma, Gay Village, il 1 giugno inizia, Parenzo, ma ormai sei... Cioè, nel... No, perché sei anche a Padova il Gay Village. Cioè, secondo me... Si chiama Pride Village a Padova, il Gay Village a Roma. Pride Village. Beh, magari però con i miei figli un pomeriggio una volta. Dovresti venire con i bambini, perché tu, non vuoi portare i tuoi figli? No, ho appena detto, magari la sera non li posso far uscire perché sono piccoli, il pomeriggio è aperto lì. È aperto. No, dalle 8 in poi. Dalle 8 di sera, mi dispiace. Alle 20, ma comunque d'estate dai, alle 20 e ancora... Ma sono troppo piccolo. Una volta vengo con i bambini, d'accordo? Sì, va bene, con i bambini, benvenuti. Mi sa che è troppo piccolo... Vabbè, che non succede. 2 anni e mezzo. No, poi... l'altro non succede niente. L'altro c'ha 3 mesi. No, ma dico, no, l'altro, il più grande. Il più grande ha 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo, sì, ancora non devi dare nessuna spiegazione, diciamo, di quello no che succede. Sai, ma poi non succede nulla che i villager succede in realtà. Come quella zia Malgioglio. C'è gente che si diverte, che balla, che ride, si diverte. Beh, c'è un po' un minimo di trasgressione, Comunque, ieri sera hai per caso visto con Costanzo? No, perché devo essere sincera, sì. Ho seguito la partita Foggia-Lecce, perché insomma Eh sì, perché comunque già, Foggia, che tu sei... io sono di Foggiana e il Foggia, insomma... Ma sei tifosa del Foggia tu? Eh beh sì, sono foggiana, anzi ho pure promesso sì. che quando il Foggia andrà in Serie B, perché sì. adesso... C'è la finale col Pisa, sì? Esatto, sì. io al posto di quella svergognata della Ferilli che si è spogliata per la Roma, io farò un favore a tutti i tifosi, ho promesso che non mi spoglio ma mi copro col cappotto a 40 gradi per festeggiare. No, però scusami un attimo, ma questo dove l'hai detto? Ai foggiani? Ho mandato un tweet. No, ma ragazzi, allora, diciamo una cosa molto semplice, allora, al Foggia... ai tifosi del Foggia, no, ma è troppo. Che coperta, devi andare lì. Mi spoglio se il Foggia va in Serie B. Beh, stupendo. No. Perché, ma come non ti spogli? Un costume sotto da bagno, ma sopra un cappotto. E io devo fare una cosa diversa. No, che cavolo, un costume da bagno e un cappotto. Vabbè, ho capito, ma quelli frega se ti mette il cappotto. I tifosi del Foggia, scusami, cioè, ma la vai a vedere la finale o no? Credo che il 12 andrò a Foggia, sì. Beh, per l'ultima partita. Sì, è grandissima. Con la sciarpa rosso-nera, ma Parenzo manco sai i colori del Foggia, capito? Cioè, no, beh, chiedo scusa. Come fa l'inno del Foggia? Non lo sai l'inno del Foggia, Vladimir? No, l'hanno fatto Pio e Amedeo, la coppia, però adesso non me la ricordo come fa. Vabbè, comunque sarà in tribuna il 12 nella gara di ritorno a Foggia, mi sembra, no? Sì, mi sembra bravo. Di capire. Informatissimo, bravo. Beh, sì, lo so, queste cose di calcio più o meno le seguo. Una specie, no, mascotte. Posso dire una cosa che era molto più divertente seguire Foggia Lecce che Italia Scozia. Sì, questo l'hanno detto in molti, sì, Foggia Lecce un derby piuttosto che dalla Scozia, sì. Senti, ma secondo te quanti gay ci sono in nazionale? Come in tutti gli ambienti, facciamo, guarda, per tenerci proprio stretti, per non fare sempre quelli che dicono che ci sono gay dappertutto, facciamo, guarda, veramente stretti un 5%? 5% nella nazionale, 5%. Cioè, non ho capito, tra i 23 di Conte, quanti ce ne saranno secondo te omosessuali? Ci deve essere per forza qualche omosex? Ma sì che c'è, non lo possono dire. Ma ne conosci qualcuno? C'è. Qui mi taccio. No, vabbè, qui ti taccio, qui mi taccio. Cioè, ci sono, dai, lo sai che ci sono. Sì, dai, ma insomma, quest'idea che i gay ci stanno soltanto. Ma tra quelli della nazionale di calcio, i parrucchieri, i truccatori, no, perché dovrebbero vergognarsi? Scusa. Ma tra quelli della nazionale di adesso, secondo te ci sono omosessuali? Sì. Cioè, tra quelli che sono in nazionale adesso, cioè, tu lo sai per certo? Secondo me sì. Sì, ci sono. Dovrebbero dirlo, secondo te? Dovrebbero fare coming out? Dovrebbero esserci, scusa. Io non obbligo mai nessuno a dirlo. Però, non sono una di quelle che, dato che ho fatto una battaglia, parlo male di quelli che non fanno visibilità. Perché è un percorso molto personale, quindi devono decidere loro come, quando, eccetera, eccetera. Mi danno fastidio però quelli che non solo non lo dicono, ma poi fanno i moralisti, puntano il dito contro di noi. Quelli mi danno, ma Conte, fastidio. Secondo te com'è? Uno da questo punto di vista aperto oppure ti sembra un duro alla Cassano, diciamo? Ma io so soltanto che Gattuso che sta Gattuso, sì, al Gattuso al Pisa, che sta al Pisa, era uno che aveva fatto delle dichiarazioni un po' omofobe un po' di tempo fa, quindi un motivo in più per tifare per il Foggia. Ah, tu dici Gattuso un po' omofobo, un po' omofobo, non ama molto i gay, non ama molto i gay. Però secondo me adesso, insomma, anche sento anche un po' di persone, dovrebbe cominciare a essere un po' più facile. Penso che temino molto le tifoserie, i tifosi, perché sai, se i tifosi usano qualsiasi pretesto per andare contro. Senti, Vladimir, ma ho letto che tu praticamente hai sostenuto che Girone non dovrebbe andare al 2 giugno, alla parata del 2 giugno, cosa che poi ha confermato Renzi, peraltro, perché è ancora indagato. Aspettiamo l'arbitrato internazionale. Cioè, tu sei una di quelle che pensa che in realtà i Marò non è detto che siano innocenti, tutt'altro. Allora, io sono contentissima. Sei strafelice. Ma adesso non è che ci puoi dire, sono felice e poi non sei. No, sono felice. Veramente sono felice. Tra l'altro, ti posso anche dire una cosa. Io quando sono andata a Nuova Delhi 2 anni fa ho mandato i miei saluti a Girone, quello, che era in ambasciata, e lui è rimasto molto contento, quindi su questo proprio non ci piove. Io penso che lui, che dopo che è stato tutto quello che ha vissuto, abbia voglia di stare un po' con la famiglia, però tu hai detto è ancora indagato, aspettiamo. Ho detto venga in Italia, stia con la sua famiglia, però da metterlo il 2 giugno lo reputo inopportuno, no, perché infatti non è successo. Un arbitrato internazionale, cioè, secondo te, ma secondo... io l'ho detto perché all'inizio il primo tweet di Renzi sembrava che lo invitasse al 2 giugno. Cioè, secondo te alla fine i pescatori devono ancora avere giustizia? Beh, quello... Allora, io non sono qui a fare i processi perché non è il mio mestiere. Io posso organizzare il gay village, ma non faccio né il magistrato, né il giudice, né l'investigatrice privata. C'è un arbitrato internazionale, decideranno quale sarà la nazione competente, io spero l'Italia, ovviamente, e in questo caso ci sarà un processo. Vabbè. E saranno loro a dire... se come quando, non sono certo io né tu né gli innocentisti, perché ci sono quelli che gli danno dell'assassino, quelli che gli danno dell'eroe, come al solito in Italia ci sono le tifoserie. No, eroe ragazzi è una puttanata, qui non c'è nessun eroe, queste sono due persone che si sono trovate al centro di un intrigo internazionale, appunto, di una lotta diplomatica, appunto. Dunque non ci sono né eroi né coglioni, cioè appunto eroi, cioè, esatto. Ma eroe, eroe, ma solito, che vuol dire? Sai, poi adesso vedo tutta la destra che è un po'... C'è uno di Forza Italia che ti ha detto una cosa tremenda, un tizio di Forza Italia che ti ha detto, aspetta un attimo, vado a ribeccare ci la cosa. Ci manca solo che qualcuno li candidi alle prossime elezioni. Beh, quello è possibile, eh. Cioè, eh no, ma appunto, però io sono contento che siano tornati in Italia. Quello è assolutamente possibile. Vado qui a candidarli. Che cos'è che ti ha detto questo qua di Forza Italia? Non mi ricordo che cosa. Ma guarda, io ricevo, dato che per stare di buon umore ogni tanto devi... Eccolo qua, Vladimiro Guadagno, ma come ragioni, con l'uccello o con la testa? Ops, alla fine per te è la stessa cosa. Signor Ribaudo, tra l'altro, guarda, era un attore porno, faceva l'attore porno. Sì, di questi messaggi di questo tenore ne ricevo, Devo dire che mi piacciono più quelli un po' più originali, questi sono un po' non ti offendono, quindi. Poco di fantasia. Allora che faccio? Generalmente li blocco, ma prima di bloccarli vado a vedere chi sono. No, questo ha fatto l'attore porno. Allora, nel profilo di questo ho visto che è il responsabile del Dipartimento Cultura di Forza Italia. Sì, signor Ribaudo. Sì, l'abbiamo anche intervistato noi una volta, l'abbiamo pure intervistato. Allora ho detto, ammazza, cioè, se questo è responsabile della cultura di Forza Italia, ho detto, povera Italia. Perché... Molto lo chiamo, va, vediamo che dice, vediamo se c'è il coraggio di confermare le stesse cose. Va. Senti, Sgarbi ha detto che sogna una coppia Belen Rodriguez e Vladimir Luxuria, cioè sogna insieme, sarebbe straordinario un'unione di questi due corpi, Vladimir Luxuria, Belen. Ma a te non ti piace Belen, secondo me? Beh, bellissimo. Cioè, non te la faresti mai. Ma abbiamo dormito insieme, ci siamo accarezzate, figurati. Ma quando, scusa? Ma quando abbiamo fatto l'Isola dei Famosi, siamo attaccati. Sì, cioè. Ma scusa, ma chi è che non piace Belen? No, però non te la faresti, non te la faresti, però non è il tuo tipo. Ma guarda, ultimamente, se una situazione giusta, magari... Non proprio da sole. Vabbè, quello sì, ho capito. Fantasia. Con un uomo, d'accordo, ho capito. D'accordo. Quella è un'altra cosa. Ma da sole scappa. No. Ma da sole no. No, da sole no. Che gusto c'è? Cioè, non ti va? Cioè, di che si sta parlando se non c'è un altro uomo, no? Cioè, sì, ho bisogno comunque. Di... Se no che fai da sola? Cioè, se no, tutto quello che ho fatto... Cioè... Tutto quello che hai fatto per andare con Belen. Cioè, capito? Sì, è uno spreco. Cioè, tutto quello che fa uno dice transessuale, eccetera, le cose così, e poi alla fine Belen, no? Cioè, ci vuole un maschio abbastanza dotato, come dire, no? Ci sono delle trans che sono... Che vanno con le donne? Tutte e due, sì. Sì, però, no, sono un po' più tradizionalisti. Sì, però ci vuole sempre la partecipazione. Che succede? Che c'è, Ribaudo? Sì, che c'è, dimmi. Perché hai detto a Luxuria, scusami? Ma che ho detto a Luxuria? Cioè, sì, che c'ha l'uccello in testa. No, è diversa la storia. Cioè, praticamente lei non solo si permette di offendere i Marò dicendo che sono... praticamente che sono indagati. Colpevoli. C'è un arbitrato internazionale. Non ha detto colpevoli, però... Sì, ma tu non puoi dire a due servitori dello Stato, uno è innocente fino a prova contrario. Io non vedo il perché. Uno che ha... Ma al di là di quello che ha detto, tu gli hai detto che anche... te lo ricordi quello che hai detto o no? Sì, me lo ricordo perfettamente. Io ho detto soltanto che non bisogna ragionare con l'uccello con la testa. Ho capito, ma poi hai detto, ma scusa, per lei è la stessa cosa. Per lei è la stessa roba, perché si chiama Vladimiro Guadagno fino a prova contraria. E dunque? E dunque deve ragionare con la testa, porca miseria, non può dire che ha delle cazzate tremende. Cioè, uno può anche essere... Ma che c'entra uno può dire, lui ha detto una cazzata, ma col fatto che sia transessuale che cosa c'entra? Scusa. No, a me non interessa che sia transessuale. Ma non come no? Ha detto... Omofobo. Ah no, ma ho capito. È una constatazione di fatto. È o non è ancora un uomo? Vabbè, Vladi, mi rispondi tu, dai. Io avrei più di dubbi se lui è un uomo a questo punto, perché l'essere umano si valuta da anche, posso dire, dall'eleganza, dalla fantasia, non da queste battute, devo dire, troppo facili, troppo scontate. Tra l'altro, io ho detto la verità. Cioè, i due Marò Scusa, non ma decido né io né lui se sono innocenti o colpevoli. Scusa, Ribaudo, Ribaudo, dimmi. Che sì, fa il magistrato lui? Ribaudo, scusa un attimo, ma tu sei stato attore porno, eccetera, ma i transessuali non ti piacciono? Io li tollero, ma non ho mai fatto nessuna scena con loro, primo. Li tollero. Li tollero, che vuol dire li tollero? Perché sono esseri umani come tutti gli altri, hanno diritti e doveri, indubbiamente. E allora perché li offendi? No, io non offendo nessuno, ma io ho fatto una constatazione di fatto. Ma come ragioni, con l'uccello o con la testa? Caro Ribaudo, perché quando pensi a me pensi all'uccello, è quello che desideri? No, perché tu ti chiami Vladimiro Guadagno fino a prova contraria. Sei un po' ossessionato dall'idea dell'uccello, secondo me dovresti... Dovresti toglierti lo sfizio, guarda che io non bevo acqua in vetro, sai. Appunto, secondo me dovresti toglierti lo sfizio, così diventeresti anche un po' più aperto. No, ti guarda, la mente. Guarda, nella mia vita sono stato aperto a tante cose, come sa sia Cruciani che Parenzo, ma quando anche una persona del tuo stesso calibro, della tua stessa visibilità, offende palesemente, non è del mio partito, Giorgio secondo Meloni, me potresti anche provare, potresti anche provare la, ma la cosa. Mai dire mai nella vita, ci mancherebbe altro, ricordo, ciao, ciao, mai ragazzi, dire mai nella vita, devo chiudere. Pacifico. Ciao, ciao, Ribaudo, devo chiudere. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.